Ce ne sono sul 10? Ce ne sono sul 10? Che fischi allora? Cosa fischi? Cucu babau, cucu babau. Hola, hola, hola. Attento, GR7. Sì, sono io. C'ho lo stesso fisico anche. Ma non c'è lo stesso uccello però. Ah, boh. Buonasera Claudio, mi sono venuto adesso in questa stanza, proprio in questo momento con un giornale che c'è più luce a leggerlo, era acceso qua da, tanto stasera è serata piena, devo andare al medico, in farmacia, insomma, fare varie commissioni, edicola, eccetera, quindi non ci sentiremo. Ritieni che ti sia salutato fin d'ora e buona serata. Io ci impressa, mia moglie sta andando adesso al medico però con mia figlia. Io mi sono riposato un po', perché sono stati un po' di giorni, sto dormendo pochissimo perché mi sto cercando molto tardi. Va bene, dai, io sono qua, se vuoi entrare, adesso aspetto se entra qualcuno. KK, ci sentiamo dopo allora, dai, sto uscendo bene, sì. Vabbè, è naturale, no? Perché sto usando l'altro microfono col K, ma già esce bene anche questo, dai. Va bene, ci sentiamo dopo allora, ok? Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Attento CR7. Buonasera. Saluto. Ciao Claudio. Ciao Gianni, a me. Si tira avanti. È meglio che si tira avanti sempre. La baracca bisogna tirarla sempre avanti, mai lasciarla indietro. Bene Meda, mi è sembrato di sentire Marcolino. E ha detto non ha voglia, che deve andare dal medico e quindi ha detto che al limite entra dopo. Cappa, cappa. Ciao Gianni, ben sentito. Ciao Marco, buonasera. Via. No, sono qua, bello, sul divano, bello, c'è luce, sto guardando il giornale. In quei cataloghi che arrivano a mamma, bombi, è tutta moda femminile, no? Però, caspita, belle figliole. Soprattutto il reparto intimo è molto interessante. Sei sempre a Postal Market, se non arrivi di torno. Sì, Postal Market è vero, quando eravamo ragazzini, molto ragazzini, che non c'era di meglio, anche lì il reparto intimo era yuhu, infatti dopo bisognava strappare le pagine. Infatti io mi ricordo, anche mamma comprava Postal Market, il vestro, quelle cose lì. Vabbè, bei tempi. Beh, che si dice Gianni Rubrofetta? Avete tirato fuori un calcio. Poi, vabbè, dopo anni era uscito anche Euronova, roba del genere. Molto simile a Postal Market vestro. Cosa avete tirato fuori? Sì, perché noi da ragazzini guardavamo quelle cose, andavamo a vedere quelle cose lì, altri giornalini non ci consentivano di vederle, quindi ci facevamo gli occhi con l'intimo delle modelle di Postal Market. Mi ricordo. Avanti Marco. Sì, ogni tanto ne trovavi qualcuno buttato, sai, quelle giardini abbandonati, le ore, tutti quelli di allora, no? Ma poi io in realtà non avevo bisogno nemmeno di Postal Market, perché mio zio c'aveva la collezione privata, c'aveva di tutto, dai fumetti divertenti tipo Lando, Oltretomba, Fiorello, tutte quelle cose là, no, fumetti così, molto così. Succhia la vampira, no, Zora era la vampira, più le ore, tutto, i minuti, i secondi, tutto. Io dovevo solo attingere là sotto il suo letto, mentre mi facevo la coltura. Adesso è tutto gratis su internet, è uno scandalo anche troppo. Lando, ti ricordi Lando? Vabbè, c'erano bei giornalini fumetti allora, vabbè. Adesso non c'è più niente, ormai è tutto morto. Guarda, i fumetti erano veramente ben fatti, c'era tutti i gusti, no? Poliziesco, noir, oppure l'under anche divertente, no? Era quello con tre gioielli, no? Che assomigliava anche, era un misto tra Buzzanca e Celentano, c'era una faccia particolare, se ti ricordi come era disegnato. Invece c'era un giornalino, sempre quelli così, no? Chiamato Il Montatore, perché era un tipo, no? Con la divisa blu d'operaio, che andava a montare i mobili a casa delle donne e poi montava anche le donne, no? Quello era identico a Buzzanca, proprio sputato, lì hanno preso proprio spunto da Buzzanca, che faceva quei filmetti sempre, no? Del maschio latino, eccetera eccetera. Vai Gianni. Capa, c'ho una banda sotto la finestra, non so se la sentite in sottofondo, non so cosa si combinate, siete Maciaro. Sta sfilando un gremio, la bandiera di un gremio. Sì, io mi ricordo il camionista, la poliziotta e poi cosa vera. Vabbè, adesso non me ne ricordo altri, comunque ce n'erano diversi. Il tromba, venire da un bel. Oh, comunque per il mio gusto macabro che ho sempre avuto, d'altronde, se non sarei stato metallaro, i più belli erano Zola la Vampira oppure Oltre Tomba. Era un misto tra horror e sesso. Boh, finiamola qua, sennò poi non entra nessuno. E vabbè. Sono cose che abbiamo penso vissuto un po' tutti in quell'era, dai. Giornalini allora si guardavano, era giusto per vedere qualcosa, non c'era niente di scandaloso, qualcuno sì, ma qualcuno no, fumetti erano. Poi sono usciti i giornali porno veri e propri, e quelli erano appunto un po' scandalosi. Va bene, bellissima giornata, ma c'è fresco, stasera c'è freddo, lo sono io, il signore in campagna ha preso un sacco di freddo. Va bene, avanti Marco, riprendi. Vabbè, oggi è stata una giornata costruttiva per quanto mi riguarda, sono andato in quell'ufficio al Palazzo Rosa, lì ufficio farmacia, mi sono ritirato questa somatotropina, no? Questo ormone che devo fare con quegli iniettori tipo molto simili a quelli da insulina, automatici, no? Giri la rotella, è già preregolato, non puoi sbagliare, metti un aghetto micro, ma un aghetto proprio super micro, lo fai alla pancia, una volta al giorno, dice che tira su anche fisicamente, e speriamo anche moralmente nel mio caso. Quindi cosa ti hanno detto, l'effetto medico, devi fare la cura o devi fare? Niente, ho ritirato il farmaco, da stasera si inizia, è durata 3 mesi, vediamo cosa ne esce. Se giova anche al fisico, potrebbe anche giovare, qualcuno proprio l'ha tirato su fisicamente, me era molto molto giù a terra fisicamente, l'ha migliorato molto. Ok, certo, sì, ogni giorno chi sa paranoia, metti l'aghetto, zac, sulla pancia o sulla coscia, e pensa invece chi deve farlo 3 volte al giorno per altri motivi, no? Come nei casi di diabete, cioè, 3 volte al giorno comincia a essere davvero assillante come cosa, però si fa, cosa non si fa per la salute? Per la salute si fanno tante cose. Riprendi già un minuto, arrivo subito, mi sto chiamando mia moglie. Eia, volevo dire una cosa, ma mi è passato in mente, vabbè, la banda si è spostata, quindi adesso il rumore di fondo non c'è. E niente. Un po' di mal di testa, vabbè. Forse è collegato tutto al clima. Il segnale com'è, Marco? Il mio, sempre lo stesso? Ottimo, fammelo guardare, vediamo. Io non ho toccato nulla. Naturalmente io ho un filtro anche anti-TWI per sicurezza, no? Se io togliessi quel filtro tu saliresti di 1 dB almeno, forse anche 2. Mi pare che sia sul 9 più 20, prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ehi, abbondante, anche abbondante, ho già. Se fossi con l'antenna diretta sarebbe, penso già sul 925, perché d'altronde portata ottica a me, tiro di balla e c'è solo via Lomberto, via Lomberto, Corso Trinità e poi la zona è ottica quasi, credo, per la mia antenna. Bene, poi diciamo sarebbe piovuto, ma vedo che c'è il sole, fa capolino, un po' si copre, un po' fa capolino, non credo che pioverà, oppure proprio fa due micro gocce, micro e buh. Guarda, io dalla finestra, che è praticamente un piano sotto al tetto, riesco a vedere il rione dei Cappuccini, vedo quella sorta di piramide del teatro comunale, quindi il campanile dei Cappuccini, tutti gli altri palazzi che ci sono lì dietro, quindi dalla finestra, poi chiaramente se salgo sul tetto vedo molto di più, quindi la zona è libera, è lì, in linea d'aria non c'è niente da fare. Ma che piove non sa, no? No, le previsioni accennavano a qualcosa, forse piova Schini, ma è uscito il sole di nuovo, meno che non piova alle 7, oh. No, penso non ne abbia dato acqua, non ne ha dato, mi ha colato nuvoloso, questi venti un po' più freddi, però niente di che. Vabbè, se piove già ci vuole un po' d'acqua, tutto secco, già va bene. Eia, basta che non piova quando sono a piedi, tutto va bene. E ti vedi l'ombrello, dov'è l'ombrello? Ehi, voglia, per andare a mani libere, dammi. Bene, bene. Va bene, riprende già. Eia. Stavo dicendo, quindi tutta quella zona qua dalla finestra è libera a vista, quindi più o meno è come quello che dici tu. Poi per il resto, insomma, altre cose non le vedo, però comunque non è, cioè, lo spazio è abbastanza libero, dai, come visuale, dalla parte alta, dai, poi chiaramente la parte bassa è, vedo la Zinara, quindi non ci sono problemi. Eia, oh già, tu leggi i libri, cosa leggi di solito, se leggi? Io vado a momenti, vado a periodi, adesso ultimamente non diciamo che non ho poca pazienza per leggere, è a sentimento, quando mi viene voglia leggo. Però in questo momento non ho, già anche al computer quando leggo determinati documenti dopo un tot mi stanca e mollo tutto. Ehi, lo fa anche a me quello. No, per curiosità, l'avevi mai letto 1984 di Orwell? No, vabbè, conosco il film di quell'autore. Ehi, il film con la buonanima lì, mi pare anche l'attore che era giovane è morto. Eia, il libro è bel, ben fatto, poi sembra la situazione attuale, vabbè, in nome della sicurezza naturalmente, telecamere ovunque, poi questi smartphone con Google è peggio di Skynet, anche disabilitando tutto entri in un negozio. Ti appare il messaggio, come ti è sembrato il negozio? Ma ci ho disabilitato tutto, persino il trova dispositivo, niente, sanno che sono stato lì, tutta roba arriva da Google, è un'arma a doppio taglio. Diciamo in parole povere che gli strumenti della tracciabilità sono tanti, quello è uno di, il telefono è uno di questi, con che mezzi sono tanti. Quest'epoca, anzi, diciamo che quelli a conoscenza sono questi, poi ce ne sono ben altri che chiaramente non conosciamo. E quindi la realtà è molto più, va molto più avanti della fantasia. Legacy NSA, mamma mia, mamma di turchi. Vai Claudio, meglio essere all'oscuro. Per me il telefono è una cosa che non è che mi attira tanto. Ce l'ho perché ci vuole, però io lo uso diversamente magari da tanti. Non è che ci vado matto. Mia figlia è più, anche mia moglie, c'hanno telefoni di ultima generazione. Uno c'ha l'8 e l'altro c'ha il 9 addirittura. Mi pare sia uscito il 10, un vario generale, quindi 5-600 euro per il telefono. Boh. Va bene. A chi piace lo usa come vuole il telefono. Anch'io social non ne guardo. Giusto WhatsApp a me per la cerchia al baracchino, poi per il resto non sono di quelle che si mettono, che si fanno selfie ovunque siano, anche al cesso, per dire adesso sono al cesso, e tutti che guardano. Oh già, sai che chiedendo a ragazzi giovani, no? Molti, cioè, non so chi l'avesse fatta la cosa, chiedevano il Grande Fratello, che cos'è? Tutti dicevano il programma della TV, ma da cosa ha avuto origine il termine Grande Fratello? Loro credevano che fosse il programma che c'era su Sky e Mediaset, quello che è, non lo so. Non sapevano nemmeno l'origine, cioè perché queste telecamere che spiano ovunque, quindi non hanno letto il libro, non sanno una minchia, tranne qualche mosca bianca, i giovani di oggi, quelli almeno abbastanza giovani, non sanno una minchia. Kappa, adesso mi hai fatto venire in mente un classico, un film con Will Smith dei primi anni 90, ma fine anni 90, primi anni 2000, Nemico Pubblico, non so se l'hai mai visto. Praticamente si trova nei casini e iniziano a infamarlo sulla stampa, gli bloccano carte di credito, insomma, gli mettono i crospie nel telefono, nei tacchi delle scarpe, dei pantaloni, delle penne, insomma, un casino. Quindi stiamo parlando del 2000, quindi adesso figurati tu come siamo messi. E poi se hai visto il film The Listening, In Ascolto, ora roba da far accapponare la pelle, anche metodi che usano certe organizzazioni che lavorano anche per l'NSA, una cosa veramente, vabbè, se non vedi il film non puoi capire. The Listening, In Ascolto. No, non chiede l'attore, che non me lo ricordo comunque. Kappa, adesso stavo pensando anche, c'era un film dove c'era, ah no vabbè, era sempre lo stesso, l'ex NSA era Gene Hackman, praticamente, che dà una mano a Will Smith, praticamente lo aiuta a trovare tutte le tracce e le cose nascoste. Avanti Kra. No, non ho mai visto io questo film, non lo so. Ah, io è morto, non è male. Non ho mai visto, forse se l'abbia visto, non me lo ricordo. Kappa, c'era un segnale morso e poi ho sentito un break. Avanti. No, era tramite Claudio, ha parlato qualcuno su altre bande. Sì, non ti preoccupare, già, se senti qualche rumore c'è tutto acceso, sì, era la coda del ponte, il VHF, e poi ha chiamato un carissimo amico sull'altro ponte, quindi hai sentito parlare, ma è tutta roba che ho acceso io qua. Ok, cazzo imbriaco il gioco. va bene, cosa volevo dire? Sì, il film è abbastanza conosciuto, sicuramente l'avrei visto, forse si trova su YouTube, mi sembra, intero, quindi molti film si possono vedere liberamente. Ma praticamente adesso la maggior parte, praticamente, se tu guardi la televisione, purtroppo, praticamente il 90% del palinsesto è piena di situazioni del genere, polizieschi e con tutti i fritti e latti connessi praticamente, quindi figurati tu. Ecco, ripeto sempre che la realtà va ben oltre la fantasia della televisione. Sì, sì, sì. Guarda, ieri c'era un film che poi ho lasciato perdere, con Sandra Bullock, dove lei era una relatrice, aveva redatto questo rapporto Pelican, che già mi suona all'orecchio, forse è qualcosa di reale, che comprometteva, non so, un futuro presidente degli Stati Uniti. L'hanno braccata in ogni modo, in ogni cosa, la rintracciava in ogni modo possibile, una cosa. Poi alla fine mi sono ubriato e ho lasciato il film, però era un bel film. Comunque sono in pubblico sicuramente, se Will Smith l'ho visto magari tempo fa, è che non me lo ricordo, ma me lo... e poi già se non trovi streaming c'è santo Emule e santo Microtorrent. Eia, eia. No, già, adesso vabbè, mi sono fermato un attimo perché problemi con la connessione, quindi non posso scaricarle. Comunque tempo fa ne ho scaricate un bel po' e insomma ne ho visti parecchi, dai. Poi non è che chiaramente non mastico tutti i generi, mi piacciono determinati film, quindi che abbiano soprattutto, che siano collegati in qualche modo con la realtà. Poi chiaramente stiamo sempre parlando di messa in scena, quindi bisogna sempre riuscire a guardarli con un occhio critico. Vai, questo per quanto mi riguarda, poi ognuno chiaramente ha i suoi gusti. Vediamo Claudio che gusti ha, avanti. Claudio, cosa ti piace a te? Western, guerra, via col vento, amoroso, sentimentale, come ti piace lo film? Così. Guardo un po' di tutto io, ma non è che sono appassionato a vedere qualcosa di specifico. Mi piacciono molto quelli di mafia, quelli sì. Meglio, vabbè, quello è un genere che piace a te, poi poliziesco così, no? Meglio, a me basta che non mi tocchiate per i western, coso, come si chiama? Clint Eastwood. Mamma si guarda invece, mamma mia, come si chiama quello di Agrinza? Quando lo vedo me ne scendono proprio a terra. Dai, Gianni, rinfrescami la memoria. Ma chi, John Wayne? Sì, mamma mia, un salto, un gap generazionale. No, a me è sempre piaciuto Clint Eastwood, oppure roba tipo La conquista del West, ma anche Bud Spencer e Terence Hill, Trinitata, quella roba lì, non so. Però Clint Eastwood, per me è il western per eccellenza, già per qualche dolore in più, no, dai primi notti, dai, quelli più notti, poi ne ha fatto anche anni 70, non so se all'inizio anni 80, però ha fatto qualcosa tipo Gli Spietati, credo sia uno degli ultimi, però non c'è più la luce che brillava prima per quel tipo di film ormai. Kappa, vabbè, adesso sta facendo molti film, li sta proprio producendo lui, dirigendo lui, chiaramente in alcuni ci partecipa, in altri no. Guarda, proprio di Clint Eastwood, qualche giorno fa mi sono rivisto Gran Torino, non so se l'hai mai visto, non so se l'ha visto anche Claudio. Vabbè, i finali sono sempre quelli, comunque mi piacciono perché lo trovo interessante, come trovo interessanti i suoi film, dai. Eia, Gran Torino con quei coreani, mamma mia, pure i coreani ci volevano. Intanto si sacrifica per pure farli catturare, ma vabbè, poi il testamento, no? C'era già la nipote che ci aveva già in mano le chiavi di quella Gran Torino, invece l'ha lasciata al coreano. Eia. Million Dollar Baby, diretto alla Clint Eastwood. Ogni pianto, mamma mia, quella scena dell'eutanasia. Non la potevo guardare quella cosa lì, guarda. A parte che avevo un debole per quell'attrice in particolare. No, sì, è un film, però, oi, che argomento scottante un po'. E poi cos'altro? Vabbè, adesso certi magari non li ho seguiti, gli ultimissimi, io sono fermo a Gran Torino, mia. Senti, Gran Torino, Million Dollar Baby, poi altri non so. Forse si è già espresso, ma non me ne ammetto. Primo spettacolo, Claudio, anche secondo spettacolo, cioè o alle 9, 9 e mezza o alle 11, 11 e mezza, sono film che hanno andato più volte. Million Dollar Baby parlava di quella pugile, quella ragazza così che ha voluto fare pugilato, bravina, poi succede che per uno scherzo del destino oppure per volontà di qualcuno, come stava cadendo all'indietro, le hanno messo un secchio, cos'è quello in alluminio, o cosa era, non mi ricordo, ha battuto la cervicale, crack, immobilizzata, poteva muovere solo gli occhi e la bocca, immobilizzata dal collo in giù. E lì chiedeva al suo allenatore di farla finita, perché non, alla fine la vita è finita, che vita è quella? Già lascerò uno scritto io che tocchiamo ferro in caso di incidente o di malattia, di non fare accanimenti terapeutici, perché non avrebbe senso. So che va fatto in tempo utile, no, non si sa mai. Purtroppo qua in Italia non è, cioè in Italia abbiamo anche il Papa, troppo cattolici, praticamente qua devi sputare l'anima fino all'ultimo giorno, proprio la devi sputare l'anima. E qualcuno è andato in Svizzera con l'aiuto dei politici a finire di soffrire, no, qua per la religione cattolica devi soffrire, se no è omicidio, capito? Poi vabbè, la religione cattolica lasciamola stare, meglio non nominarla nemmeno, se non mi viene da bestemmiare. Vai Claudio. Vabbè. Aveva ragione Marx o Mao, chi è che lo diceva già, che la religione era veleno, era l'oppio dei popoli, ed è vero. Guarda tutto quello che ha combinato la Chiesa in quasi 2000 anni e quello che stanno combinando i musulmani adesso, in nome di un Dio. Lasciamo perdere, parliamo d'altro. Gianni capisce al volo. Vabbè, purtroppo è così. Oh, se non ci fosse stata quella scusa, avrebbero trovato un'altra scusa per di massacrare. Quella è purtroppo la cattiveria insita nell'essere umano. Lei è una brutta bestia, l'essere umano. A proposito di Juve, ma partita c'è oggi, Claudio, o no? Qualcosa devono fare? Non so. Così no, perché poi alle 9 devo andare alla mia zia, così inizio a usare questa macchinetta, voglio che lo veda lì come funziona anche. Vabbè, dai. A Claudio piace il film in bianco e nero, capito? Possibilmente bianco-nero il film. Bianco-nero? A chi non piace il bianco-nero? Ah, agli interisti, ai milanisti. Vabbè, ma quella non è colpa loro. Tucci bucci, cassa via. Vabbè, che poi io non devo parlare perché non, soldi per il calcio in tasca non me ne entrano, quindi non me ne può fregare di me. Ma chi è quello? No, Claudio, tu che lo sai. In queste reti televisive un po' minori, no? Chi è quello con i baffi, i capelli grigi, i baffi grigi, che si mette a urlare? Tutto rosso, una cosa impressionante da vedere. E che un giorno gli viene un infarto in diretta, a vedere dove c'è lui. Chi è quel tipo? Quello è Curreli, è un giornalista sportivo, milanista, accanito. Ma è una cosa, il giorno che gli parte l'arteria, quello mi, l'arteria cerebrale, uff. Mamma mia, è una cosa sfegatata lì, lui. Comunque ieri sera sono rimasto tutto accaldato, mi, fino a una certa ora, Claudio, già mi è costato a me, ero tutto cazzo rosso in faccia, hai là le guance, cazzo proprio, ho fidanzato, però è una vergogna che un uomo non regga due bicchieri di birra, purché da 12 gradi. Ma ci sono abituati, è inutile che ci metti a bere quella roba lì. Vabbè, ho sbagliato, credo fosse quella da 4,7. Diciamo che mi dovrei mitridatizzare, mi devo abituare a piccole dosi, così non faccio anche brutta figura quando sono fuori. Anche magari, sai, insiste la gente, beviti una birra, capito? Vabbè. Comunque, a me è piaciuto l'alcol, mi vasodilata, mi accelera il battito cardiaco, no. Che è controindicato per me, dai. Quindi sei andato di birrette, così è? Dimmi, aspetta, non ho capito bene già, scandisci meglio. Ho detto che ci hai dato dentro con la birretta? No, ho dato dentro no, però c'è questa birra doppio malto, sì, un po' più rossiccia. L'avevo presa da Lidl. Ma siccome io ne ho viste due lattine simili, no? Una costava un euro, mezzo litro un euro, ho avuto due bicchieri pieni, che alla fine erano bicchieri 0,25 quanto c'era stato, no? Un bicchiere di vetro classico, era birra a 12 gradi, ha cominciato a scendere, sentivo sto caldo, con la testa un po' vuota, mamma mia, 12 gradi era, ecco perché... Hanno fatto due confezioni simili, una era 4,7 e una 12. Vabbè, l'importante è non ti abbia fatto nulla non ti abbia causato niente di preoccupante. Poi chiaramente ogni tanto una birretta già ci vuole, per carità, una birretta ogni tanto già fa bene, quindi non... Io sono di quel parere, perlomeno. Sì, ma da 2-3 gradi, cazzo non lo dici. E mi sembrava strano, che sapore che c'ha sta birra, sale doppio malto. Poi a guardare bene l'etichetta si capiva. No, allergico non sono allergico. C'è gente che anche allergica proprio, che gli vale un raio a bere alcol, ma sono casi rari. Oh Marco! Ma sul 3 ci arriva la portante, anziché sul più, sul 3 ci arriva così. Sì, più o meno. È che qua non fa testo, attenuato ti dovrei guardare, fai lo stesso passaggio attenuato, prova. No, stai guardando attenuato. No, adesso ho attenuato, 8,5. E il 3 lo tocca del più 30, no? Lo tocca il 3, sì, lo tocca. Invece così attenuato quant'è? Rifai? Così attenuato quant'è, giusto per capire, dalla potenza bassa alla potenza alta, quanto cambia? Naturalmente diffida di questo smitter, qua mi dice 5,5, adesso prima eri 8,5. Ma non fa testo perché non è uno smitter affidabile. Comunque la differenza c'è, la voglia. Sì, vabbè, di questo abbiamo parlato ieri con Antonello che dava un segnalone a Marino sulla 87 925, ha messo il 440, mi arrivava 95. Ammetti che ci sia tra lui e cosa la portata ottica. Ma anche lui smitter, non so cosa lo stessi usando. Baracchini sono, già lo sa lo smitter buono qual era, 140 almeno lo smitter, poi il resto potevo anche buttarlo via. Infatti io glielo stavo volando con 440 al segnale, non è che glielo stavo volando con Baracchini. Appunto stavamo discutendo il fatto che i Baracchini non sono segnali affidabili, capito? Sono dei segnali così superficiali, dai. Mentre invece le radio a quelli vedi sono più affidabili. Da te sto arrivando bene, Gianni? Trovo la radio che è diversa rispetto ai passaggi che hai fatto prima. Poi è inutile che ti do il mio riferimento perché per il tipo di apparato che sia così preciso, capito? Comunque la radio è leggermente cambiata rispetto a prima. Ma perché satura? Non mi ha detto niente, già ho Marco, satura la radio. Sì, sperta. Sto cambiando. Non è paragonabile assolutamente alla radio. Allora c'è qualcosa che non andava. Vediamo adesso. Adesso va meglio? Salto ancora? Forse un po' meglio. Adesso non ho attenuato però, se no Gianni mi sparisce. Poi naturalmente che prove facciamo? Siamo attaccati per quanto attenui, non... secondo me si saturano lo stesso, no, solo ingressi dalla radio, non hanno dinamica queste baracchini qua. No, vabbè, forse la vicinanza, non so, perché ho fatto la prova lontino, potenza sempre la radio, potenza bassa e potenza alta, questa è quella là, è da 100 watt la radio. Capito? Non è la mia, è di una ciglia, però ogni tanto la faccio andare. L'avevo provato e praticamente non saturava. Evidentemente siamo troppo vicini, no? Vabbè. Ok, adesso va meglio da te Gianni. Eia, sì, è ritornata come prima. È ritornata. Definita come era prima, dai. Infatti. Sì, perché no. Se lo metto al massimo, a 100-100 va un po' in saturazione. Comprensibile però smorza la radio, mentre invece se lo tengo a 60-70 allora va bene. E questo è la Cobra, il GLXSD, una versione da 100 watt. Va bene. Quindi insomma, questa cura l'hai iniziata e sta andando bene, no? Lo devo iniziare stanotte, devo fare la prima pera. Intanto la fialetta dura 27 giorni, pensa. C'è la quantità da iniettare talmente esigua che sarà una micro gocciolina, proprio una gocciolina per volta. A parte che è già preparata, non puoi sbagliare. È tarata dall'interno e sono 0,4 mg. Una cosa infinitesimale proprio. Sì, allora è poca roba, allora già va bene, non ci sono problemi. Sì, piano piano, se devi farla sta cosa, farla, è inutile che stai lì a tirare e molla. Già va bene. Sì, non è roba, non era, se vogliamo essere pignoli, non era nemmeno indispensabile, era giusto per arrotondare i valori, esatti, ma potevo anche non farla, fatemela chiedere, se la vuoi fare il fisico, sì, ne potrebbe giovare, se non la vuoi fare non cambia nulla, ma se si può migliorare, miglioriamo, ok. Oh, comunque non ti preoccupare, diciamo che vabbè, c'è una piccola cosa nel livello di pulizia della radio, ma poi le prove vanno fatte in distanza, anche proprio tipo Alghero, Paolo Torres. Qua siamo, se mi affaccio sul tetto e ti metto a zicchirri, mi senti dalla torre lì. Ma sei su, sì? Sì, sono a Sassari. Il mio baracchino, quando io sto modulando sono a casa. Io una chiamo casa, l'altro per il momento la chiamo campagna, poi si vedrà. C'ho niente lì, c'ho solo, ti ho detto le ruote e basta. No, non mi interessa per il momento avere niente. Ho per cose a cui pensare, a pensare alle radio. Le radio sono qua, quando ci sono modulo da qua, quando non ci sono, pazienza, ciccia, avanti Gianni. Eia, apro piccola parentesi. Vabbè, ieri sera ho acceso un attimino la radio sul 23, sul canale 23, ho visto che c'era gente, non so, vabbè, mi ricordo un certo Gian Maria e un certo Tore, ho sentito, volevo sapere se li conoscevate. Sì, sono le persone che parlano tra di loro nel canale 23 ogni tanto, basta. No, noi siamo qua. Il canale nostro, del gruppo nostro è qua sul 10. Loro deciso di stare in disparte sul canale 23 per farsi due chiacchiere tra di loro, va bene così, non c'è nessun problema. Come c'è anche questo ho sul canale 20 a volte, non tutti i giorni, però anche lì un gruppetto si è staccato, ma a volte vengono anche qua a parlare e insomma ognuno parla dove vuole, con chi vuole, fa quello che vuole, già va benissimo lo stesso. Questo canale è aperto a tutti, chi vuole entrare entra, chi non vuole entrare peggio per lui. Kappa, no vabbè, era così a livello giusto agli olio a me. Ho acceso proprio 5 minuti ieri, ho sentito conversazione. E poi l'altro giorno, vabbè, erano in mezzo al QRM, non erano comprensibili, ho sentito gente sul 4. Fine mattinata, qualche giorno fa c'era gente sul 4, però. Sì, quelli sono due amici, lo stesso ogni tanto si fanno due chiacchiere sul canale 4, però non sono di Sassari, capito? Non sono di Sassari, sono vicino a Sassari ma non sono di Sassari. E così, cioè, ognuno fa la sua, le sue cosettine, comunque noi perlomeno siamo qua, chiacchieriamo qua, non abbiamo problemi, caro Gianni. Vai Marco. Eia, solamente tu alle antenne veicolari ci avessi già una 58, ma anche una mezz'onda, sono sicuro che migliorerebbe il segnale, no? Perché Uranio, vabbè, da Claudio arriva forte, no? Francesco qua arriva abbastanza bene, dai, Gianni più basso, ma è anche più lontano, o comunque meno favorevole alla mia zona, eia. Sì, i solventi fanno un po' prove di baracchini vintage, no, baracchini anni 70, 80, forse anche 60, qualcosa del genere. Anzi, strano, Claudio, che sì, perché io era due giorni che non entravo, anche no, a parte ieri. Meno male che state riuscendo a mantenere attivo il canale, meno male. C'era un periodo che ci stava per buttare tutta l'incassonetta. Marco, tu lo sai, se io sono in radio, la gente c'è sul canale 10. Se non ci sono io, sembra fatto apposta, nessuno entra, ma non so il perché. Di questo ne ho già parlato con Giulio, cioè sta a voi. Non è che ci debba essere sempre io per fare da traino. Se voi volete rimanere su 10, io spesso sono in campagna, quello c'ho un piccolo ricevitore e ascolto, e voi siete tutti magari da un'altra parte che chiacchierate. Ben venga, per carità. Va bene anche così, però se volete tenere attivo il 10, parlate su 10 tra di voi. Non è che va bene. Lo stesso, però quando ci sono io, stai pur certo che il canale è sempre occupato, lì eravamo 6 o 7, quindi c'è sempre gente. Giulio dice tu traini, tu sei il trascinatore, vabbè sono il trascinatore, ma no, io posso stare sempre attaccato alla radio, adesso l'estate io ci sarò ben poco, o decido di mettere un bel baracchino per non stare a portare radio un po' più serie, ma baracchini seri ne ho, come quello che uso ogni tanto. Quindi mettere un bel baracchino e un'antenna 5 cavi, non so, una Energy tipo quella che c'è tu, qualcosa del genere, a poco prezzo da qualche parte per fare due chiacchiere d'estate, oppure definitivamente tra 3-4 mesi non mi sentirete. Adesso vediamo, devo decidere, c'ho un sacco di cose da fare, un sacco di cose, devo terminare, vedere, ripristinare, eccetera, eccetera. E quindi, tra l'altro, c'è stato uno sbaglio anche in un tramezzo che non era così, e quindi è da ributtare giù, da rifare, e abbiamo buttato via solo dei soldi. Vabbè, pazienza. Avanti, Gianni. Kappa, altra informazione di servizio. Vabbè, qualche sera fa stavamo parlando, c'ero io, tu, altra gente, è spuntato fuori questo Fabrizio che a quanto pare stava modulando la patata. Personalmente lo adesso non so se stai sentendo cosa stai dicendo, comunque vi risulta che questo Fabrizio con spiccato accento sassarese da patara arrivi fin qua. Ah, io non dico niente, chi è che vuole entrare avanti? Come hai fatto a riconoscerlo se l'ha mascherato? Non ho capito, chi sei? Chi sei avanti? Chi è che ha detto non sono mascherato? Chi è? Io sono io. Ehi, no, mascherato c'ha una voce particolare poi, no? Grande. Ma non è proprio la patata, diciamo, dai. Diciamo, non lo diciamo. No, ma lei stava scherzando. Lei stava scherzando perché lui gioca spesso con queste cose, capito? No, è la Sassari, o già. Sono i pochi che ricevono patata, Budujo, Thierry, a Sassari, no. È molto difficile che li sentite, qualcuno sente, ma qua arrivano fortissimi, sia Pattara, Ozieri, Mundusò, tutta quella zona lì arrivano molto forti, quindi, e poi sappia io, no, non ce n'è, Pattara c'è Coso, come si chiama, Monserrato, che non sta neanche più entrando. Vabbè, chi è che voleva entrare? Massimiliano, tu sei? Ma io sono! Buonasera, non curarmi! Niente, si fa vedere sopra a Coso, a Gianni ti passa, io te l'ho detto, fatti forte in macchina, fatti forte, capito Eugenio? Mio Gianni è Eugenio mio. Ciao Eugenio, un abbraccione, adesso ti sento un po' più forte, ma sei in barra mobile? Positivo, Gianni Lubrofetta, come va? Tutto a posto? Sì, dai, più o meno sì, è un momento di cambiamenti, quindi sono un po' nel limbo in questo periodo, quindi insomma sono un po' così, comunque per il resto va tutto bene, il segnale è forte, dove sei? Sono sulla CO31 adesso, capito? Sono qua sulla CO31, vicino alla città mercato, capa. Ti sento bene, ti sento bene. Comunque ben sentito, un abbraccio Eugenio. Niente, dai, faccio girare, avanti Marconi. Ciao Eugenio, c'è un bel segnale, sicuramente sei in zona o comunque dintorni, dai. Ho sentito anche Giuseppe D'Alghero. Giuseppe, io ti copio, ma gli altri non so se ti copiano. Oh, già sparito. Va bene. Il mio amore, signore, sta con cuore. Se ti lascio in faccia San Milano, Salvatore, so che mi capirai, tu non mi seguirai ancora. Ma vedi già, la gente allegra, eh? La gente allegra, che ando pronto alle mazzoni, come ti allegra, visto vai? Ma io non ho sentito nessuno, e poi tra l'altro, l'unica cosa che non capisco è come fai a sentire a Giuseppe, io non lo sento. Arrivava a Santiago 9 prima, adesso mi è sparito, arriva a Santiago 3 mezzo QRM, non lo so come ti... non mi spiego. Ok, su a Cagliari, su che canale modulano? A Cagliari che canale modulano? A Cagliari, io poche volte sono stato col baracchino, però penso che stiano molto sul 5, ma non c'è problema, quando entri a Cagliari già li senti parlare, spazio va già, se c'è qualcuno già li senti. Ma c'è un 31, mi hanno trovato un artista, chiamavo, tutti sporto ce l'hanno, è una segnalità. No, non c'è più nessuno sul 5, Eugenio, già. Oramai vanno in tutti l'applicazione CB Talk, sono tutti lì camionisti col telefonino, oramai l'era del baracchino dei camionisti è sparita. È molto molto raro, guarda, molto raro. Io sto molto in ascolto quando sono soprattutto in campagna sul 5 il ricevettore e non si intende mai un cane. Un giorno ho sentito uno dell'Eurospin che stava chiamando un suo amico, appunto gli ha detto che era già arrivato in deposito ed era pronto a scaricare, penso che era qualche frigo dello sfido e basta. Oramai è finita, non c'è più il movimento che c'era prima, no Eugenio? Ma sono qua perché su, a me mi dicono che continuano a usarlo tantissimo, che a molti, anzi a quasi tutti lo capitano, non mi piace. In locale, solo per il locale era interessante, ma dovendo scegliere allora il prefisco al baracchino. Sì, avanti. Stiamo provando la parete, la 9 più 10, radio buona, abbastanza buona. Ok, adesso siccome ci siamo ancora al momento, stavamo provando a regolare la terra, adesso andiamo a attaccarla per vedere se funziona, non dico che la seconda, ok, grazie. Attaccarla per vedere se funziona. Se stacchi l'antenna sicuramente non ti sentiamo. No, perché la sto regolando ancora. Ah, ho capito. Che zona sia? Sassari o sei fuori Sassari? Monte Bianchino. Sassari, Monte Bianchino, vabbè. Io sono a Sassari, non so se mi senti, io ho un'antenna piccolina nell'avanzare della finestra, mi senti? Hai sentito? Ho detto l'amico che è in macchina, Eugenio, ti senti anche a San Giovanni in macchina, quindi stai arrivando bene. Poi mi dici se mi senti, perché io ti sento Santiago 9 più 10, uguale come ascolti tu Marco, a te ancora fai girare Marco. Eia, forse sì, la deve tarare, tarare, dai, diciamo, voleva intendere quello, sì, comunque già arriva, voglia. Ho detto strano che non ti arrivi Giuseppe, o è cambiato qualcosa nel tuo impianto, io non... c'ho sempre l'antenna misera di prima, so che non riesce a venire avanti perché non lo sentono gli altri, capito? Giuseppe, ti saluto se mi ascolti. Ah, qua arriva discretamente bene rispetto al rumore di fondo. Non lo so, sarà la radio, non lo so. Cosa Marco? Ho detto che tu non senta quasi Giuseppe. Sarà cambiato qualcosa nella sua o nella tua antenna? Vabbè, Algerio ce l'ho, quasi ottica. Quasi ottica, magari arriva meglio da me che da te. Può essere, perché no? Guarda, io quando parlo con Alghero, anche da poco, stavo parlando con un amico, era sul 10 di mattina ed era in macchina ad Alghero, arrivava segnale 9 da via Dominzoni, fate il conto, quindi non penso sia proprio da me, c'è qualcosa che non va da lui, Santiago 3 mi arriva, Santiago 3 metro QRM, prima era 9, che agganci, se sgancia non lo sento per niente, agganciato mi arriva segnale 3. Sì, sì, che ti sentiamo, vieni avanti. Figurati, con chi abbiamo l'onore di parlare? Vabbè, evidentemente non vuole dire no, quindi non lo dico neanche il mio. Avanti, un profetta. Ho capito, come ti chiami ho detto? Benissimo Mariano, io sono Claudio da Sassari. Va bene, va bene. Mi senti bene? Stai facendo riferimento su di me o su Marco? Mi senti bene a me? Lei è vicino a Sinanos. Io sono Claudio, ok? Claudio nonché Sparviero da Sassari. Ok, Claudio da Sparviero. Perfetto Mariano, va bene. Avanti Eugenio, in barra mobile 131 Mirafiori, B2, capito? B2 si chiama. Ma da tanti anni lo conosci, o Gianni e Eugenio, sempre così è. Perché io ho avuto modo, sfortunatamente, di conoscerlo da grande. Vabbè, diciamo che per un certo periodo abbiamo condiviso la passione per la moto, insomma ci trovavamo spesso ad uscire insieme, quindi per un po' di tempo insomma ci frequentavamo insieme con altri amici, quindi è stato bello, dai, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un po' di strada insieme, quindi ho dei bellissimi ricordi. Adesso praticamente sicuramente si sta spostando e non riesco più a copiarlo. Damiano o Mariano è in mezzo al QRM, non sono riuscito a capire niente. E niente, questo è quanto. Sì, vabbè, adesso è da un po' che non ci vediamo con Eugenio. Spero appena possibile di poterlo rincontrare. E ciccia. Ok, avanti qua. Ma i capelli ce li aveva quando l'hai conosciuto tu, o sempre così? Pochi capelli. me lo porta a morire, così bisogna essere. Dove sei arrivato, genio? Passato ottava, KK. Ma stai arrivando bene, bella radio, bella... L'unica cosa che ti si abbassa il segnale è quando sei dentro il porto. Non capisco perché. O stai in mezzo ai container lì a tutti gli sarticolati. Perché io il porto lo vedo di Porto Torres, ti sento e ovunque ti sposti, però il segnale è molto più basso. E sarà più forte della frequenza. È più forte lì di ottava, deve essere. O è Gigi Vulcano o è Massimiliano Bulldozer. Non lo so. Se ti ha salutato vuol dire che doveva salutarti. Però... Ma da Sassari è impossibile, quindi sicuramente... C'è qualcuno che è lì, da San Giovanni, da Ottava, non lo so. Vabbè, se è a coperto qual è il problema? Vuol dire c'è raffreddo. Vai Marcolini. Dicevo, quando è al porto tu, Eugenio, lo senti basso, però riesci a copiarlo. No, qua quando è al porto non arriva. Al limite sento che c'è un qualcosa nel fondo, un rumore in fondo, ma non arriva. D'altronde, insomma, l'antenna non è, tu sei più in alto, questa è una 5 ottavi economica, non è quella, marca 3 spade, dai, diciamo. Vabbè, dai, cioè, non c'è un calcio di mettere il cavo, voi. Che continua a parlare sotto di Marco, perché non entri invece di parlare solo con Eugenio? C'era qualcuno sotto di Marco. Vabbè, dai, manda le ciance. Avanti Gianni, riprendi. Per Marcolino, guarda, io sento soprattutto anche nell'ultimo passaggio, mentre stavi parlando praticamente, è come ho sentito qualche scarica, sai, un contatto non perfetto praticamente, ogni tanto ho sentito qualche scarica, è come se il connettore o qualcos'altro o qualche contatto elettrico non fosse perfetto e quindi ogni tanto ho sentito qualche scarica. Ma Marco? KK. No, io non sento niente, prova a parlare Marco. Siccome questo cordone del microfono è un po' rigido, se tiro, adesso sono fermo, immobile. Quella se tiro, o se balla il piede, la presa microfonica, speriamo che si bruci tutto qua almeno. E ne abbiamo una cassetta dei baracchini, già non rimane a piedi. No, adesso Marcolì, adesso è l'ultimo passaggio che hai fatto, è sparito. È un leggero disturbo da contatto non perfetto, capito? Niente di grave, capito? Tipo cavo che si muove o un connettore non ben fissato, capito? Tutto qua, per il resto niente è preoccupante. Ehi, ma che se succedesse mi un giorno di vento che si rompe l'antenna, no, non emetto altre antenne, manco per le scatole. Pazienza, vuol dire che sarà un simbolo, come dire, un segno del supremo, del grande architetto, e lo prenderò per buono. Già la rimettiamo, non ti preoccupare. La rimettiamo. Dove sei arrivato Eugenio? Sì, io ti sento. Marco, lo senti Eugenio? Sento un segnale, ma non è, come si dice, quel termine, non è capibile, un termine più fine, come si dice? Vabbè, dentro il Porto Torres con la potenza della radio. Chiamato Giulio, attento CR7, c'è una gana. Magana Ugino. No, stavo chiamando a Giulio se c'era, l'ascolto, invece non c'è. Ehi a Eugenio, va bene. Chi è che ha chiamato Claudio Basso Basso? Chi è? Giuseppe, tu sei? Oh, Madonna Gesù. Ma tu bene lo senti Marco? Sì. Limitatamente al segnale. Giuseppe, vieni avanti, dai che faccio la ponte io. No, io già lo sento ma basso. Lo sento basso, se non c'è QRM riesco a capire ciò che dice, ma se c'è QRM me lo copre totalmente. Poi può lo rilancio, non riprende, allora che devo fare? Ma non glielo vuoi dire, non so neanch'io. Vabbè. Come mai ho Gianni il gremio? Perché già i gremi stanno preparando. No, non lo so, poco fa c'era la banda e c'era il gremio con la bandiera, non so, magari c'era qualche messa qua a Santa Maria o qualche chiesa qua vicino, è passato proprio, non sono riuscito a vedere bene di che gremio si trattasse, è passato comunque una bandiera di gremio con i gremianti, sicuramente stavano spostando per qualche messa, insomma. Sicuramente hanno portato la bandiera in chiesa, qualcosa, hanno fatto qualche... Non so, no, qua c'era prima uno del gremio dove abito io. E intanto veniva la banda, un figlio bamburo, lo prendevano e uscivano tutti vestiti da indiani, da puffi, da... Non so, salivano i pipistrelli. Sicuramente sono andati a prendere qualche ubriere di bandiera, insomma. Io, da quanto ne capisco io, adesso vabbè, no, diciamo che non sono più ferrato in certe cose, quindi l'ultima volta che ci ho lavorato ai candelieri è stato il 2012, ho fatto una sorta di piccolo documentario per i gremi dei calzolai. Oh Claudio, ma che hai visto tu? Quelli incappucciati, tipo Ku Klux Klan? No, ci avevano un berretto in testa, un po' particolare. Questi tipi a pipistrelli erano. Ah, l'obriere, sì, forse hai detto bene, abita un obriere qua, lo abitava, no? Sono tineri, vestiti con questi mantelli, vestiti da pipistrelli, insomma. Io abito nel 1987 a Sassari. Non sono mai andato a vedere né la cavalcata sarda e né i candelieri, perché è una cosa che non mi è mai piaciuta vedere, nel modo più assoluto. Beh, vabbè, io per questione di lavoro, soprattutto quando ero in televisione, l'ho seguita per un sacco di anni, quindi gioco a forza, ci dovevo stare dentro, quindi io l'ho seguita praticamente per un sacco di anni, dai primi anni 90 sino al 2009-2010, eccetto una volta, adesso non mi ricordo, sì, mi avevo preso le ferie proprio ad agosto perché dovevo fare della roba e quindi comunque le ho seguiti parecchio e ultimamente è diventato un delirio. Lo so, però è una cosa che meno mi attira, non so. Io voglio entrare, avanti. Ciao Fra. Guarda come sta andando questo microfono, che è un altro. Buonasera a tutti, Ciao T, buonasera. Bene, ma mi piaceva più l'altro, più corposo l'altro microfono. E infatti è una prova, Aspetta un attimino. Sì, stacca, metti l'altro. Ora, vedi un po' Claudio, ha cambiato? Allora, voto 1, 5, l'altro 10 e 9. Questo è quello che va meglio. Questo è il suo microfono, l'altro è troppo... ha una tonalità diversa, questa è molto più bella a te. Va bene. Allora, no, era per ordinarlo, perché mi ha fatto dare uno da VV e quindi volevo provare quale prendere. Ascolta, ma quello suo originale del 48 cos'è? Andava bene in quella scatola, ecco, quello originale dell'Aran 48, quello lì stai usando? Sì, è questo. Oh D, quello devi usare, quello. Mi ricordo in prove fatte a suo tempo, chi usava quel tipo di microfono era eccezionale. È una voce strepitosa, molto molto bella, c'ha degli acuti impressionanti, molto chiara. L'altra rimane più corposa, con tonalità medio-bassa, non mi biasi. Questa è bella. Marco, che ha sempre mai niente. Gianni, lo senti a Tino? Sì, buonasera a Tino, ben sentito. Anche per me scelgo la seconda opzione. Ok. Sentito IT cosa ha detto Gianni? Cosa? Ma sei senza segnale, dove sei andato? Oh, va bene. Ascolta, vero. ho sbagliato la cosa. Quindi va meglio l'altro qua. Il secondo passaggio è nettamente superiore, ma te l'ho già detto domenica, mi pare, hai fatto la prova ieri. Favolosa con modulazione. L'altra non è male, però è più bella la seconda. Microfono Midland. Sì, no, è bello, l'ho preso poco fa, ne sto arrivando da giù adesso, quindi stavo usando questo CTE, però a quanto pare va meglio il classico. Adesso te lo provo in questo apparato, senza camera eco. Provalo, vediamo se magari si adegua di più a questo baracchino, ma con la camera eco è strepitosa, veramente una bellissima modulazione. Che è successo? Mi sono assentato. Eia, guarda questo qua, questo microfono normale della CTE con quell'apparato che stavo usando, il più 5. È uguale, medio bassi, non acuti, mentre l'altra ci aveva gli acuti e va molto meglio. Va bene, lo ricambio, era giusto per provarlo, l'ho preso stasera per prova, domani torno a casa. Sì, sono i microfoni, qual è quello con la rotellina? No, il CT è normale. Perché ce n'erano della CT, che c'era una rotellina, erano amplificati, ti ricordi? Quelli vanno bene con determinati baracchini, però ti ripeto, io con la camera eco preferisco il microfono della Midland e con l'altro poco fa, il primo passaggio, preferisco più l'MB più 5T. Sì, vabbè. Lasciamo così. Va bene, sono appena rientrato, scusate, sono entrato in fretta e in furia, giusto per approfittare di voi e fare questo controllo. Niente, va, dai, ci vediamo, ma ci sentiamo più tardi, Claudio, che vado a farmi la luce. Ciao a tutti, non so neanche che ci sia in frequenza, ho capito che c'era Marco, che si è allontanato a mangiare come al solito. Ciao Marco. No, sono dovuto andare in bagno, sono andato a bere acqua e poi in bagno, dai, ciao Tino. Sì, ti ascolto bene, non posso fare il rapporto di paragone con prima, dai. Claudio, praticamente sono le 7:10, dai, mi devo anche fare la barba e poi scendere al medico, eccetera, eccetera, dai, ci sentiamo domani o quando capita, ok? Quindi buon proseguimento di serata e alle prossime. Vai Claudio. Via, gappa, va bene. Ciao Attino, prima, buona doccia, siamo qua, ok? Sentiamo dopo se coincide. Ciao anche a te Marco, dai. Buona passeggiata da medico, mia moglie è lì, sta andando mia figlia a prenderla. Va bene. Avanti Gianni. Via. Ciao Marco lì. Buon proseguimento. Ciao Tino. Eugenio è da parecchio che non riesco più a sentirlo. In mezzo al QRM ogni tanto sento un borbottio, mi sembra Giuseppe, ma adesso questo è per quanto riguarda qualche passaggio fa. Adesso proprio non lo sento più, è mezzo proprio al rumore. No, io lo sento poco fa, Giuseppe che ha chiamato. Ho anche risposto, però arriva già basso a me, a Marco arriva un po' di più, non capisco perché, comunque a me mi arriva basso, a te sicuramente non ti arriva per niente. No, Eugenio è sceso un attimo dalla macchina, già riprende dopo. Ah, quindi si è attaccato un attimo. Doppio room e Giulio oggi assenti, adesso lo scriviamo nel registro. E Giulio è sicuramente impegnato a fare altro, solo la sera c'è sempre. Gianni è rientrato al lavoro, ce l'ha già detto da ieri, quindi la sera adesso per un po' non lo sentiremo perché lui fa il turno, capito? E quindi la sera lavora, esce tardi, c'è la chiusura di dove lavora, quindi mi pare che esce alle 9 da lavoro, perciò quando arriva a casa la doccia e tutto, preparare la cena, no, non entra più. Lo sentiremo il fine settimana o quando è a riposo, così ci ha detto, era in ferie per quello che era un po' più disponibile, adesso ha ripreso a lavorare, quindi anche lui c'ha i turni. Giulio non lo so, evidentemente è impegnato, sta facendo altro, magari non è neanche a casa, se no già sarebbe entrato. Ho capito. Ma volevo dire un'altra cosa, ma me ne sono dimenticato. Volevo parlare di un'antenna. guarda, qualche giorno fa mi hai consigliato un'antenna economica, un'antenna buona, con una buona resa, abbastanza economica da poter piazzare, però non mi ricordo né il modello né la marca. Mi puoi rifrescare la memoria, per favore? Ma è della 27. KK. Sì, è una 27 economica, cioè tipo quella che c'ha Marco, che costa boh, forse una sessantina di euro, una cosa del genere. La più economica penso che sia quella. Oppure, vabbè, la Boomerang non te la consiglio perché è un'antenna che secondo me la metti non serve a niente. Una Grand Prix, una mini Grand Prix, qualcosa del genere. Però siamo sempre intorno alle 35-40 euro. Il prezzo di quelle antenne lì è così. Niente di caricato, eh. Prendete lo stilo, un bello lungo. Se proprio dovete mettere una Grand Plane, se proprio una Grand Plane full size, un quarto d'onda, che poi tra radiali stilo e alta 550, a quel punto meglio avere uno stilo unico, mezz'onda 550, che non ha bisogno di radiali, no? Una volta avevo preso la Grand Plane GPVR, scusate, non ho chiuso ancora. Lunghezza totale grosso modo erano circa 5,5, 2,75 stilo, altrettanto i radiali inclinati, alla fine conviene più la mezz'onda, almeno è tutto radiante, tutto radiatore, voglio dire, già hai capito, dai. Comunque la mia è la Energy 5 ottavi della Midland, Energy 5 ottavi, è un'antenna cinese rimarcata dalla Midland e dalla Sirio, la Sirio la fa uguale, c'è sia mezz'onda che 5 ottavi, 5 ottavi è un po' più lunga e ha tre radialini da 1,30 m orizzontali. Cazzo. Ciao, buona serata. Inteso, hai già, lì, Marco che conosce il tipo di antenne, io non esco mai dalla Mantova. K, sì sì, l'ho sentito, ho sentito. Energy 5 ottavi. Va bene. Ricevuto. Adesso dopo magari entro su internet e cerco un po' e vediamo un po' di nello specifico di cosa si tratta. Appena sarà possibile voglio mettermi un antennino, insomma, un antennino più decente rispetto a quello che ho adesso. Non nell'immediato, però dico, appena sarà possibile lo voglio cambiare, così almeno riesco a sentire e riesco ad andare un po' più in là di come sono messo adesso. Volevo dire, naturalmente sono antenne che hanno anche la bobina interna più sottile, le saldature sono più tenere, cioè quella è un'antenna che ti danno di fabbrica 500 watt picco picco, cioè continui, ne puoi usare un terzo, penso la metà, 200, non di più. Non è un'antenna da kilowatt, se uno vuole usare 1000 watt si piglia la Mantova o simili, il Sirio di grossa taglia. Guarda, l'unica cosa che ha di bello è che è leggera, è sottile più della Mantova, rende un po' meno, però pesa radiali, bucce e tutto 2,5 kg solo, la Mantova ne pesa 5 già, la Mantova è simile, capito? È leggera, no? Non devi tirantare, basta che metti un palo a corto, se poi c'è pochi metri di cavo, meglio ancora già, ce n'è da buttare. Ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, capito. Sì, guarda, io questa radio ci avrà 4 watt, 5 watt, più di quello non ha, quindi ce ne sarebbe per imporci. È tanto di guadagnato. Sì, pensavo di mettere una cosa del genere, quindi per come sono messo attualmente andrebbe benissimo, capito? Quindi sarebbe un passo in più bello grande. Va bene, ok, avanti qua. Ok, Marco si è allontanato. Beh, lui queste antenne le ha tutte sperimentate, io non le ho mai piazzate queste antenne. Sempre avuto Mantova, la 1, la 5, la Turbo. Adesso l'ultima che ho rimesso dopo un po' di anni è la Mantova 1. Sono quelle che me danno più soddisfazione, più fiducia, e poi soprattutto la resa del vento, la resistenza del vento è micidiale. Io sono troppo in alto, troppo esposto, quindi ho paura di mettere delle antenne più fini. Quindi in campagna si potrebbe mettere quella uguale a quella di Marco. Infatti sarà quella l'antenna che metterò lì, con un palo basso all'angolo proprio del tetto, mettono due staffe per fare due chiacchiere, più che sufficiente. L'altezza c'è, è tutto bello aperto, quindi va bene, ma lì il vento è un po' limitato, un po' più coperto, ma qua sembriamo al coso. Mi prende tutti, di Beccio, l'Alghero mi ha fatto un sacco di danni quando è molto forte, ma strada ne parliamo. Ovviamente Levante e Grecale idem con le patate, quindi è meglio avere delle antenne sostanziose, robuste, capito? Già, però quella Energy che c'ha Marco è eccezionale, ha degli ottimi segnali, arriva fortissimo a tutte le parti Marco. Beh, eccezionale adesso è eccessivo, Claudio, è sufficiente, può essere com'era la Vega 27 della Equantenne, che era telescopica, addirittura potevi richiudere lo stilo e trasportarla quella, capito? Ci avrà un po' meno larghezza di banda per via dello spessore radiatore più ridotto, no? Poi c'ha la stessa potenza teorica di un'antenna da macchina, pure di quelle modeste, però naturalmente è inutile dire che se ci metti già un mineretto 80 watt vola, 10 dB di guadagno, non so se mi spiego, ma credo che sia superfluo ormai lineare, no? Non c'è tutta quella competitività di allora. K, QRT definitivo, ciao! Ciao Marco, lì sentiamo. No, vabbè, per me è eccezionale, nel senso che qualità prezzo, posizione in cui ti trovi, per come è montata, perché l'ho vista, non è alta alta eccetera, ti difendi molto bene. Qua è il segnale più alto che io ricevo, a parte Antonello e Roberto, e il tuo sei oltre il 9.30, gli altri arrivano tutti, il più alto è 9.25, per arrivare a 9.30 devono attaccare, a parte Antonello, ti ripeto, quindi per me è un ottimo segnale, ottimo tutto, va bene, ciao, buona passeggiata, ci sentiamo, vai Gianni. Eia, volevo sapere, Cla, che tipo di guadagno c'ha la... quanto guadagno ti dà la Mantova in termini di sensibilità? Guarda, mi è stata una domanda da 100.000 euro, non so se c'è Marco, non so, che non lo so neanche io, manco mai letto io quanti di biccia di guadagno la Mantova. L'ho sempre montata a regola d'artio, guarda, dal canale 1 al canale 80 non uso né accordatore né della radio né esterno, nulla, 1 e 1 di stazionari, è proprio sempre bello fisso, che piova non piova, c'è vento, sempre 1 e 1 di stazionari, non lo so, Marco, tu lo sai? Allora, siccome la ditta che la produce, la Mantova, è in cattiva fede, l'ha dimostrato più volte, guadagna 8-9 dB di guadagno come manco vecchi lineare. Guadagno dell'antenna dovrebbe essere, questo è limitatamente a quello che so io, guadagno dell'antenna si calcola in base al dipolo isotropico. Cosa vuol dire isotropico? Non lo so, però praticamente il dipolo un quarto d'onda dovrebbe guadagnare 0. Una mezz'onda potrebbe guadagnare un 2 dB, una 5 ottavi tipo 3 dB, 3,15 dB o misurati dBi, ci vorrebbe Gianfranco qua a chiederglielo. Poco più di 3 dB, dai. Quelli che dicono 7, 8, 9 dB, fasullo, sono guadagni fasulli. Ce lo dicono anche delle antenne veicolari, la stessa cosa, antenne veicolari 5 ottavi, 6 latri, 7 dB di guadagno in un'antenna veicolare, ma puffami dolci. Però dB, stiamo parlando di dB, cioè, come dire, una Grand Play full size, già, qua siamo... Se uno ti arriva a 9 con la Grand Play full size, che ne so, uno ti arriva a Santiago 9, con la 5 ottavi ti arriva a Santiago 9 più 3 dB, per dire, non 9 più 5, 9 più 3. Vabbè, poi alla fine non è mai così, la 5 ottavi rende sempre di più di un quarto d'onda per un motivo o per l'altro, e comunque di più non so, non mi chiedete quello che non so. Ciao, ciao. Io come vedi non ho neanche risposto, quindi, perché non ho mai letto niente delle mantova, delle iguali di antenne, infatti non dico mai di B. Quando vedo il segnale dico sempre punti S, basta, così non dico stronzate, però non lo so, Gianni. Ci viene a parlare con Giulio, che forse lui legge un po' di più in queste cose. Io la Mantova è da ragazzino che l'ho usata praticamente da sempre. Prima, quando ero a casa di mia madre, avevo la Super Nincibus che si assomigliava molto alla Mantova, e ho ottenuto quella caratteristica lì. Quando è uscita la Mantova, la prima Mantova 1, comprai quella, poi uscì la 5, comprai la 5, poi la Turbo, comprai la Turbo, e poi sono tornato alla Mantova 1 e ce l'ho ancora, sempre bella, ordinata, sistemata, sempre in perfetto stato. Ed è un'antenna che funziona bene, regge molto bene il vento, se montata bene non ti crea problemi, va isolata bene, vulcanizzata bene, però un'antenna che regge, funziona. K, mi sembra, adesso non voglio sbagliare, di averne visto una, credo che sia, si trattasse di una Mantova, in zona Piazza Quadrato Fra, sul Batte di Diallo. Mi sembra averne visto una in quelle zone lì, di antenna, su un tetto. Non so manco che zona è, guarda, non vuoi parlare del centro storico, perché il centro storico non lo conosco per niente. Dietro il Duomo risulta praticamente, scendendo la parte bassa dietro il Duomo. Mi sembrerebbe una Mantova. Non lo so chi c'è lì dietro il Duomo. Non lo so, ma se tu vuoi vedere la Mantova bene, proprio in faccia, sali via Milano, al grattacielo che c'è, quello alto, sollevi la testa, la vedi proprio com'è, si vede bella chiara, perché è molto libera, è molto, molto aperta. Altra lì, centro storico, chi ha la Mantova, chi parla al centro storico, non lo so. Rosaccio. Ehi, andavè. Sta ripassando la panda. Mentre sai che cosa sta operando Giulio per modulare? Giulio Rollaro? Giulio ne ha diversi baracchini, come me. Abbiamo baracchini, radioserie, di solito usa la gemella di questa, di solito. Però c'è anche dei baracchini che ogni tanto anche lui li attacca, li usa. No, parlo di antenna. Giulio c'ha un'antenna praticamente senza radiali, un dipolo verticale, autocostruito, che si è fatto lui, ma c'è anche la Mantova Turbo che ha tolto perché le crea problemi col vento, sicuramente la metterà d'estate, d'inverno dice che è molto rumorosa, è fastidiosa. E quindi si è autocostruito praticamente con una canna da pesca, cosa che se tu ti farai le misure, visto che sei molto elettronico, una canna da pesca da 7 metri, mi pare che costi 12 euro, con due pezzi di filo e due stronzate, ti costruisci una bella antenna come si è fatto lui, arrivi in capo al mondo. Lui c'ha un'antenna autocostruita a polarizzazione verticale, praticamente un dipolo a polarizzazione verticale, arriva benissimo da tutte le parti. Bene, interessante, appena si farà vivo nel canale vi chiederò qualche informazione in più, interessante. Sì, preferisco se è possibile la seconda opzione, cioè provare a smanettare, a sperimentare qualcosa più, piuttosto che comprare la scatola chiusa, almeno c'è il gusto, il divertimento di farlo, capito? Sì, ma anche il divertimento, la passione, che va, ce l'ha fatta anche Franco, quello che tu senti dal monte, di via di Sicilia, si è costruito anche lui, aveva una canna da pesca e si è fatto un'antenna, qua arriva un po' più forte di te liscio, quando aggancia è 9,20, 9,15, capito? È che lui ce l'ha in una posizione un po' balorda, ma se tu hai la possibilità quella di farla irradiare a proiezione verticale, è un'antenna come tutte le altre. Ma per richiedere informazioni a Giulio, Giulio ha preso i dati dal sito, da un sito che c'è, che conosce lui, ci sono tutte le misure, tutta la documentazione per poterla costruire, e te la fai tu. Penso che sia una fesseria a farla, capito? È una canna da pesca in resina, con tutto il sistema per la ricezione e la trasmissione, e c'hai un'antenna seria, insomma. Invece di comprartela, te la fai con pochi spiccioli. Magari quando rientrerà a modulare Giulio glielo chiedo. Ma hai parlato di Franco, ma Franco il ferroviere, cioè quello che lavora per le ferrovie, dici? Certo che sì, non ti dico il cognome perché io conosco molto bene. Conosco sia la moglie, il figlio, tutti, perché la moglie era collega lì, ho lavorato per tanti anni assieme a mia moglie, quindi con Franco ci conosciamo molto bene. Sì, lui se l'ha autocostruita, lui aveva un'antenna piccolina, non arrivi al logo, allora ci ha costruito questa e arriva anche a Senori, insomma, sente, va molto bene, considerando il fatto che lui ce l'ha in una posizione, ti ripeto, molto molto bassa, in una posizione molto strategica. Se tu riesci a montarla in un punto buono, come hai montato questa che stai usando adesso, che sei 9,5 qua, non sei basso, sono convinto che arrivi 9,20. Eia. Sì, vabbè, con Franco, apro parentesi, ci siamo frequentati un po' quando eravamo ragazzi, che si frequentava in piazza, quindi già ci conosciamo, poi giustamente la vita di ognuno cambia, ci siamo persi in vista, comunque ci siamo frequentati per un po' di tempo, all'epoca delle vasche di Piazza Italia. E che aspetta tempo di quando sono arrivato io a Sassari. No, beh, con Franco non andiamo anche a volte, lasciamo un po' che non ci vediamo, non andiamo da nessuna parte, però a volte andiamo anche a cena fuori, assieme con le famiglie, quindi conosco molto bene, persona ottima, molto silenziosa e molto tranquilla. E mio, puoi chiedere a lui, magari se entra lui o Giulio, loro sono quelli che hanno costruito quelle antenne, ai dati di fatto sono delle antenne che stanno funzionando molto bene, Giulio è molto entusiasta di quell'antenna, capito? Quindi o uno o l'altro puoi chiedere, ti ripeto, con due spiccioli, penso che con una ventina di euro tu ti hai costruito l'antenna, capito? Bene, bene, magari inizio a spulciare qualcosa su internet, la troverò, che ci sono diversi tutorial in qualsiasi campo, sia meccanico che elettronico, di gente che ha preso spunto da misurazioni, da misure varie, insomma. C'è parecchia gente che si diletta a fare questo, quindi sicuramente troverò qualcosa, poi aspettando informazioni più dettagliate, magari più avanti, però magari inizio a cercare qualcos'altro e vediamo un po' cosa riusciamo a tirare fuori. Anda bene, avanti qua. Sì, c'è tanto di bianco, non si sente nessuno. Va bene, sì, ma infatti non ti costa assolutamente niente. Chiede a loro, soprattutto Giulio, che se l'ha costruita, poi ha dato tutte le info a Franco, ce l'ha fatta anche lui, puoi chiedere a lui, ti dice come farla, come non farla, se hai problemi, magari vi scambiate il numero di telefono, ti dà degli accorgimenti, esce bene, esce veramente bene, non ho mai sentito lamentarsi. Segnale che aveva prima ce l'ha attualmente con quell'antenna, perché anche lui c'era un'altra turbo, che ripeto, l'ha tolta e ha lasciato quella, perché non è che ci siano molte differenze, quindi l'ha azzeccata proprio in pieno, stazionaria zero, ha fatto un buon lavoro e sei sicuro che funziona, ma ripeto, il funzionamento di quell'antenna è data dal fatto che è a costo zero, due spiccioli, capito? Due lire, però ti consente di andare molto bene. Adesso con quella che stai andando tu, che è un'antenna piccolina, ha perso la macchina, qualcosa del genere, sei 9 più 5, quindi nella posizione in cui l'hai montata è strepitoso il segnale. Se tu vai a togliere quella, nello stesso punto vai a montare quella lì, raddoppi, nel senso che arrivi molto, molto più forte e ricevi molto meglio. Guarda, l'antenna che ho attaccato sarà alta 1,75 e 1,80. non di più. Quindi più o meno le misure sono quelle. È una veicolare attaccata a un tubo. Sì, più o meno le misure sono quelle, dai, 1,75-1,80 dovrebbe essere, in vetroresia. Vedi, allo stesso punto tu non fai altro che a quel tubo che tu hai già lì, stacchi quella che hai attaccato e ci attacchi quella lì, perché anche quella è in vetroresia, quindi è molto leggera, perciò non ti crea problemi, non ha radiali, non ha niente. Però vedi la differenza, perché l'altezza è molto più alta dell'antenna, a ricezione è superiore, in trasmissione va molto meglio. Quindi parlane con Giulio, vedrai che riesci, ti ripeto, ribadisco, con 2 lire a avere un sistema d'antenna molto efficace. Bene, bene, bene, farò tesoro di questa informazione, così almeno questi 4-5 watt cartusiani almeno li facciamo camminare come si deve, dai. Ti ripeto, c'hai un baracchino vintage, anch'io sto andando con un vintage, che sia un HF, ma sempre un vintage è, perché questo è uscito negli anni 90, mi sembra, quindi l'altro è ancora più vecchio, sempre similare, perciò oramai siamo tutti a livello di vecchie carrozze, però funzionano e teniamo. Sei 4 watt, sei 9, quasi 9 più 10, cioè ti rendi conto che a prescindere dalla mia zona, ma dentro Sassa ti ascoltano tutti benissimo, perciò penso che vai a migliorare alla grande, ma alla grande veramente, sempre in quella posizione, non spostarti da dove hai quella, attacchi una e attacchi l'altra, vedrai che i risultati ci sono. Guarda, uno perché c'è già il palo, c'è un tubo innocenti grosso già piazzato lì. Due, è il percorso più corto, quindi di conseguenza tu mi insegni che meno cavo c'è e meglio è. Quindi da lì, quando la cambierò, la metterò dove c'è piazzata questa, proprio per una questione di risparmio in termini di ingombri e soprattutto di cavo. Certo che sì, adesso ti stai usando il cavo quello fine, l'RG58, quanti metri ne hai? Guarda, non ho, buccia e tutto saranno 10-12 metri, considerando le curve e l'ingresso qua dalla finestra, sì, ma saranno 10-12 metri, non voglio dire cazzate, ma mi sembra una misura del genere. È possibilità, cioè entra bene nella finestra, anche quello leggermente più grosso, per dire un 213, quello a bassa perdita, entrerebbe lì dove entra quello? Sì, siccome c'è un buco, c'è un foro nel muro, nella parte bassa, dove entra anche il cavo dell'antenna TV, quindi il buco è già fatto, il cavo passerebbe lì, quindi la possibilità di passare un cavo appena più grosso già c'è, quindi se passa quello dell'antenna TV passa anche l'altro. Ecco, tu sistema l'antenna pure, anche il cavo, ce ne abbiamo di cavo meglio di quello, che ti dà la possibilità di avere anche un guadagno superiore. Io di cavo grosso di 213 sul tetto mansarda, cavo tolto dalle antenne vecchie, però il cavo è buono, nuovo, l'ho conservato proprio nel caso serva, quindi non ti preoccupare, procurati una canna a pesca, le misure te le dà lui. Io non ne ho canna a pesca sotto le regalate, a meno che non ne abbia qualcuno a Gianni, che ne ho più rum o qualcun altro che, scusa, che non sto andando più, mi sto prendendo da freddore, mi viene un freddo 2D gettando quel cavolo di piazzale in campagna, guarda, allucinante. Quindi già sì, tu adesso devi sentire a Giulio o a Franco, ma ti consiglio più Giulio perché tecnicamente è molto preparato in queste cose. Senti Giulio e poi per il cavo, per le altre cose non ti preoccupare, già ne abbiamo di materiale. Eia, bene mela. Guarda, il cavo che c'è adesso, ti ripeto, è tutta roba che è riciclato, no? Adesso non so se è un RG58-59, boh, non mi ammetto. Comunque è un cavo già adattato, cioè, quindi, però, su male per adesso. lo sto utilizzando e va bene, poi al momento opportuno già ci attrezziamo, dai. KK, vediamo chi è, Giulio, tu sei? Ciao negativo, sono io Claudio, ciao, buonasera, ciao anche l'amico, io l'amico l'ascolto del 717 qui a Ottava, comunque, modulazione della radio 5 perfetta. Ok, riprendete, scusate, vedete Claudio, mi sto sistemando un po' tutto e qua c'è un mezzo casotto, c'è mio nipote che si stava giocando. Avanti Claudio. Ehi Mari, un abbraccione. I bambini sono così, vedi, arrivi con quell'antenna da marino che è Ottava, quindi tu immaginati mettendo un'antenna autocostruita come ci ha fatto Giulio lì o Gianni, arrivi magnificamente bene, ma io ve lo dato segnale, sei quasi 9 più 10 qua a Carbonazzi, da dove sei tu a Carbonazzi, insomma, siamo un po' distanti, Ti faccio salutare Marino, poi un abbraccio Marino, fatti sentire, quando voglia lo sai, mi fa piacere se entri a fare due chiacchiere assieme a noi, un abbraccio grande, buona serata, vai Gianni per salutare Marino. Ciao Marino, ben sentito, quindi se riesco ad arrivare ad Ottava è già un buon segno, bene Mela. Grazie mille, dai, ci sentiamo, non so se ti trattieni o ci sentiamo prossimamente. Comunque, ben sentito e dai, salutoni. Ciao Marino. Ciao, sì. No, qua diciamo, come segnale è ottimo, è un buon segnale, come radio, un radio 5 perfetta. Si sta dicendo già, poc'anzi si sta parlando con la 5 ottavi al centro storico. Oh Claudio, ti ricordi dove ci siamo visti noi al centro storico in estate, insieme a quella persona, amico tuo? Risulta dietro, alle spalle, però assomiglia a quella 5 ottavi, però non mi dice la lega, che non mi dice già le cariche, c'ha le radiali più grossi e anche più lunghi, radiali più grossi e più lunghi, io in quella zona, non sai, io sono sulla parte locale, ogni tanto ci scendo la moto, tutto qua, riprendi Claudio, saluto anche l'amico che mi ha salutato, io mi finisco il sistema di qua e c'è un caos, avanti Claudio. Ehi Amari, sì, ma non riesco a capire chi è, capito, la zona più o meno, adesso ho capito voi, ma non so chi sia. Va bene, ti faccio salutare da Tino. Ciao Maria, un abbraccio grande. Avanti T. Ciao Maria, ciao. Non mi ascolti? Mi ascolti, mi lo dici pure. Ma arrivi 9.30. Per favore arrivi come Claudio. Ti ascolto, ma stato chiaro. Ma stato chiaro. Tutto qua. Avanti, ciao Tino, ciao. Ciao Maria, ciao. Io ho un'antenna che sinceramente è autocostruita, non l'ho fatta Luca. Canna da pesca, già fatta, però viene male a trasportarla, se no gli avrei anche regalata, per me sono problemi se viene a prendersela. L'ho piazzata un giorno, poi ho trovato un pezzo che mi serviva dalla Mantova, l'ho riscesa e l'ho appoggiata in terra lì sul tetto. Nuova, nel senso che è stata fatta con determinate cose, determinati accorgimenti e niente, se la vuoi non sono problemi. Ciao. Vedi Gianni, come vedi l'ospitalità del canale 10 è sempre aperta. Vedi, chi l'ha fatta quell'antenna è una persona che è un CB, è Luca, che è abbastanza preparato. Vedi, anche quella è un'antenna autocostruita, simile a quella che ci ha fatto Giulio, penso, con le stesse caratteristiche, sempre fatta canna da pesca, sì. Però non si può smontare, una volta che è fatta non la puoi smontare, capito? Se ti metti d'accordo con Tino che hai la possibilità di andare a prenderla, io ti posso anche accompagnare, però bisogna portarla intera da lì, da dove abita Tino, arrivare da te mi sembra un po' difficoltoso. No, sai perché non si può smontare qua? Perché abbiamo fatto una struttura, praticamente un tubo di PVC messa per resistere alle intemperie, perché qua dove abito io il vento di maestrale di ponente li prende forte, e siccome la canna da pesca quando c'è molto vento, sai come va, la canna da pesca è molto flessibile, l'ho voluta rinforzare un pochino, quindi all'interno c'è la canna da pesca che addirittura è con il poliuretanico, quindi è un po' resistente in confronto alle normali, ecco. ho speso 40 euro per poterla fare, ho toccato quello che ho fatto una volta e fa, ma non mi interessa il freddo, non mi interessa niente, se la vuole gliela farò regalare. Gianni, rispondi a Tino, io non so cosa dirti, se non si può smontare non lo so se c'è la possibilità di portarla via da lì, Gianni. Ciao Tino, buonasera, ben sentito, grazie per il contributo. cosa vuoi ti dica? Grazie mille per la proposta, magari ci si può organizzare in un prossimo futuro, vediamo un po' cosa si può combinare, in questo momento adesso mi prendi un po' la sprovvista. No, ma non ti preoccupare già, è lì, sul tetto, ti ripeto, l'ho utilizzata un giorno, dopodiché l'ho tolta dal palo. Allora, ti ricordo che abitavo prima io alla Croce, no? Tu pensa che per farmi l'impianto qua a casa, con la mia mitica 127, perché voglio dire, quello che ha portato quella macchina, non è neanche idea, ho portato un paio di centi da lì, da dove abitavo prima io alla Croce, qua nelle curve di campagna che ancora erano strette, non erano larghe come oggi, immaginati. Io guidando e un'altra persona, tu sai chi, conosci benissimo Gabbino, che teneva il palo fuori dal finestrino, seduto nello sportello. Ti puoi immaginare come cacchio abbiamo portato questo palo a 6 metri. Guarda, quella 127 a me mi è rimasta impressa, e tu lo sai perché. Quindi che abbia trasportato anche un palo da 6 metri, non, su questo non ci piove, guarda, ci credo al 200%, perché chissà ma che è una combinata di tutti rigorosi. Sia tu che Gavino ne avete combinati tutti i colori con quella macchina, quindi mi ricordo perfettamente, non mi dimenticherò mai di quella macchina, né di quella e né dell'altra di tuo nonno. Ui, bei tempi. Lo so, però sai, lì esci dalla Croce, attraversi e sei già all'interno della strada dove il pericolo ci può essere sempre, però è diverso. Tieni conto che lui da lì da dove sei tu deve o entrare dentro la Croce, che non glielo consiglio, oppure fare la budi, uscire dal chilometro e inserirsi, quindi viale Sicilia, sino arrivare a dove lui, perché lui è lì, Corso Vico, quella zona lì, quindi sei dentro città, una cosa del genere, ti trovano i vigili urbani, non solo di curiti l'antenna a capo, ma penso che i vigili hanno altri problemi. Similia lo drag. è un carica sotto. Va bene, era giusto per buttarla lì, io sono disponibile. Mi sono risieduto perché sono stanco, mi sono risieduto ma devo andare a farmi la doccia, che poi devo preparare con mia moglie che mi ha fatto una bellissima torta per la festa del papà, quindi devo preparare la notturna. Ciao Massimiliano, e anche l'aria che però è tra le 10, poi qui dal lavoro sta facendo tra le 10 e le 3 del mattino tutta la settimana, perlomeno fino a venerdì, poi va in ferie. E quindi mi è uscita poco fa con la mamma a prendere qualcosa proprio per fare la torta per la festa del papà. Vabbè. Sì, ti lascia aperto. La 127. Ui. Ciao Massimino Bulldozer. Oi, ciao, buonasera a tutti, dai. C'è una possibilità, ti prendi il tram e ce la butti dentro, la butti in terra. Ciao Massimiliano, scusami ma devo allontanarmi. Massimiliano, non ho mai dato l'idea, ma non è meglio che Massimiliano lo dra, sì, perché è lungo, l'antenna ci sta, ne mette uno dal finestrino da una parte e un altro si dibaga lo biglietto e si mantenete questa antenna sino a Corso Vico. E allora, ciao Tino, dai, buonasera, ben ascoltato dopo la marea. E io casino, ma cazzo, quando vai non c'ha qualche amico con un camioncino, una cosa? Noi un'antenna così da casa di Luca ce l'abbiamo portata via. Aveva tutti i bonari lì, l'abbiamo infilata dentro la macchina e tutto il resto della punta fuori dal finestrino legato allo specchietto. Quanti metri è Tino? Se non mi sbaglio sono 6 metri e mezzo, 7 metri, adesso non mi ricordo, perché le misure sono quelle. Sì, ma si può fare meglio alla fine, perché se tu cucini una macchina che è 3,50 metri, alla 147 fare sia così 3,50 m, mettendo la punta nel finestrino e facendolo uscire dallo sportellone, cosa esce? 1,5 m da una parte e 1,5 m dall'altra. Senti, che bisogna stare attenti sia che pigli l'asse ciclista a luci. Vai, che non è così come dici tu. No, tanto mica costato c'ha il BMW Station Wagon, ma lo sai, tanto le sci a vola, lui lascia perdere, non è cosa portare in macchina. E io qualche amico con un camioncino, adesso io l'ho detto scherzando, in tram, ma in tram da fare entrare dallo sportello, là, diciamo, dove c'è la gente, la buona in terra. Questo motocarro ci vuole, motocarro. Non ce l'hai qualche amico lì che c'ha il motocarro già? A pagare Luca Giulio, cosa? Andare a Tino, a Corsovì, cosa? Mi dai 10 euro. No, sto cominciando la scena di caricata una 3-3-3. Tu proprio tipo Mr. B. Vabbè, comunque, sì, una persona già ce l'ho che conosco, che c'ha il gasolone, sai, quei camioncini tipo Daily, un po' più piccolo. Ne conosco uno. E niente, boh. Vediamo un po', dai, come si muovono le cose per adesso. Non sto convincendo ancora a cosa di Rudra. La cosa di Rudra è un'idea. Tu organizzati con anche un motocarro, va bene, perché la metti in alto, tipo come quando portano le cose di ferro loro, non le, come si chiama, la drafia, capito? Gli uffici caricano sopra e c'è sotto lo cartello, eccetera. Tu procura un motocarro, poi io telefonatino, tu mi dici va, ho procurato un motocarro, io telefonatino, ci organizziamo, andiamo e la prendiamo, capito? E così te la piazzi. Io va, se avessi avuto la furgonetta, oramai non ce l'ho più perché non lavoro più, se avessi avuto la furgonetta l'avremmo fatto con la furgonetta, che è un po' più grande, cioè avevo l'ultima manovata, tra l'altro era a passo lungo, era un doblò, quindi era un pochino più lunga del Fiorino, la mia bocca è andata la cappotta e via, l'avremmo portata, però purtroppo io non ti posso aiutare più. E tanto Massimiliano? E tanto me, appena ho fatto la doccia, mi stavo un po' ascoltando, mi stavo bevendo una birrettina fresca. Via da te, no, io non c'ho né vino né birretta qua, niente. Niente, non avevo in campagna, avevi tutto, no, vabbè, mai nulla. Abbiamo finito venerdì, è arrivata quell'altra persona, ti ho chiesto il prezzo, che lo voleva sapere Gaetano, appunto ho detto, mi sembra che sia intorno alle 600-700 euro, una cosa del genere. Erano vaccati 650 euro, 7 metri cubi, Massimiliano, troppo. Quanto? 650 euro la fattura era. E quanti metri cubi? La piccola, quanti metri cubi è? 7 metri cubi, quanti metri cubi è? La piccola? Cos'è? 3 asce, 4 asce il camion, che cos'è? No, era un camion normale, forse un 3 asce, ma non era grande. Sì, se era un 3 asce, 8 metri. 8 metri? E allora? Nel 4 asce ne carica... Se è un po' duro le carica anche quasi 10, da. Venire un bel. Ce n'era un bel. Però boh, mi sembra di aver letto 7 metri cubi, boh. Forse non l'hanno riempita tutta, non lo so. Era 650 euro, IVA compresa. Molto il prezzo. È buono, però mi dovrei che il cemento Eco, cioè 3,25, che cemento ha preso, boh? Non l'ho letta la fattura, ho fatto la segno, boh. Non ho letto, ho visto il prezzo e basta io. Però il cemento era buono, era anche abbastanza molto. Per fare massetto, Massimiliano, per ripiazzare, c'era il ferro elettrosaldato e poi buttava sopra e noi tiravamo con la riga. Sì, sarà un 3,25, già va per la voglia. Sì, c'era la rete elettrosaldata tutta messa prima, tutta legata. Rivita, allungato lo braccio, meno male che nel cancello entrava un po' di traverso, comunque è entrato, ha messo le cose lunghe, è riuscita a gettare bene, tranquilla. Mi ricordo, no, ma era un 3 assi, non era grande, no, non era grande, un 3 assi era. Però boh, mi sembra aver letto, ma se quando vado in campagna la guardo, entrate lì a vedere se era 7 metri cubi o 8 metri cubi. Comunque il prezzo mi ricordo perfettamente, era 650 euro. Ah, ma è una bella pompa, E allora? E allora quelle più di... Sì, vabbè, c'è quella che carica 8 metri pure di bettopompa, vabbè, là, comunque dai 6 agli 8, sì, là, più o meno. Ma ce n'era, non è, già ce n'era, perché abbiamo fatto un culo, però mi pare che era così. Ho visto metri cubi all'importo, lì va compresso, quindi era quello lì, come siamo stati 7, 8, non so, ma non di più, non di più. Vabbè. Quindi, a meno che Gianni, non vai a Camico e va l'elicottero. Claudio. Oi. Stai innescando per caso? Assolutamente no. Guarda, aspetta, sto muovendo il capo. No, io non sento nessuno innesco. Va bene, ho dovuto mettere una vettina, dai, che si muoveva. Che cavo. No, va bene, lascialo così. Vabbè. Ciao a te. Adesso la camera eco, Massimiliano. Quanto c'è bene. Cos'hai, una camera eco quella? Eia. Non ti piace, Massimiliano? Devo essere sincero? Sì, sempre. No. E cos'altro? Vorrei perdere. Troppa ripetizione, cioè guau guau guau guau guau, abbassati un po', ma non sono altro di M1000 chi so. No. Così beh, come fa, guarda, 1, 2, 3, così è meglio. Aspetta, ora, così l'ho diminuito? Ma a me mi sembra sempre uguale. Cosa stai regolando? Secondo me è ancora meglio di prima, Massimiliano. Aspetta, guarda così. No, così c'è troppo reverbero. E così, guarda, 1, 2, 3. Così è già meglio. Claudio, come l'ascolti? Sì, considerando il fatto che tu sei più vicino a lui, va bene. Sì, così come te l'ha regolata Massimiliano va meglio a te. A me era molto forte, però io non sapevo se si potesse regolare. Così va meglio a te, sì. La posso ancora abbassare? No, ma la radio la puoi alzare un po'. Tutta alta. Tutta alta, non fa di più. È tutta al massimo così? Sì, è una camera eco EC9990. No, pensavo che avesse magari la radio, il mic che è un po' più basso. No, tutto a manetta. Così stai innescando, vero? Così stai iniziando l'innesco, sì. Eccolo qua. E così come va? Ha migliorato? Questo che fa questo? Questo qui lo si può abbassare appena. La ripetizione devi abbassare, sì. E poi va benissimo. Eccola. Ancora? 1, 2, 3. Così come va, Massimiliano? Tu sei più esperto, per me va bene. Sì, io che sono più esperto, ma secondo me ce n'è ancora, troppa. Adesso l'ho abbassata, Massimiliano. Ecco, così secondo me già un pelino glielo puoi dare adesso, un pelino glielo puoi dare. Adesso l'ho messa a ore 1, diciamo, dai. Vedi, così è già più carina secondo me. Sì, ma va bene, io non sapevo che si potesse regolare, pensavo fosse a microfono fisso, dai l'ecco e basta, capito? No, così va bene anche per me, ti. Peccato che c'ha poca radio, ok? Ehi, microfono, guardi, ti faccio un'ultima prova, aspetta che stacco questo microfono, Guarda Massimiliano che l'ha già fatta con me, secondo me questo è quello della Midland del microfono, senti l'altro che mette della CTE, tu che c'hai l'orecchio più fine sull'ecco, io la sento più cupa rispetto a questa, sentila. Adesso vediamo. Aspetta, eccolo, questo è l'altro microfono, Massimiliano. Vabbè, allora, questa qui ha cambiato totalmente la radio, questa è molto molto superiore. Vedi, io invece la sento più con tonalità più bassa, medio bassi, l'altro c'ha più acuti, però regola questo microfono adesso con Massimiliano che lui ecco ce l'ha più orecchiabile rispetto a me. Aspetta, avete parlato in due? perché questo microfono è troppo forte, capito, in base alla, a quella camera eco, ecco perché te lo innesco. Quindi devo abbassare leggermente il mic gain. Sì, abbassi il mic gain, però se ne va la radio, quindi alla fine ti conviene usare l'altro e tieni il mic gain a manetta, tanto è uguale. Aspetta, uno, due, tre, adesso per dire è tutta manetta. Così in questo passaggio va benissimo. E gli assistenti, guarda. Ora. Ho abbassato leggermente. Sì, però quando schiacci quel microfono ha qualche problemino secondo me, nel senso che gracchia leggermente. O è la camera eco che fa questo coso? No, può essere. Aspetta che cambio, dai. Lo senti tu, Cla? Sì, lo sento soffiare. No, proprio come schiaccia il PTT, si sente tipo gracchiare. O gracchiare, dai, sì, quando schiaccia il PTT, sì. E magari abbinandoci il microfono amplificato lì, a provare. No, lascio questo, dai, che l'originale non gracchia e credo che vada bene. Sì, va bene, però quella là ti fa la voce più robusta, capito? Più mascola, come si dice. Ho capito, più amplificata, più da prepotente. Con le cose di grosso. No, ti, tu me ne prendi il lavoro, prepotente c'ho io, Allora abbasso il mic. Sono belle tutte e due, ti ripeto, l'ho già detto, però questa a me piace più perché c'ha più acuti. Se la lasci così la regolazione è perfetta per me. Ho capito qua. No, era giusto una prova con questo CTE per vedere se comprarlo oppure tenermi quello che ho. Ah, boh, Massimiliano, cosa le dici tu? Ah, tu ti vuoi comprare il CTE per quella camera eco? Vabbè, aspetta un attimino. Usiamo questa. Sì, comprarlo, oddio, ora in prestito e vediamo un po', ma se non va bene lo ritorno. Ascolta, tu al posto del CTE non ce l'hai un microfono della quelli della Midland classici, neri, non quelli originali però, tipo il CTE? No, di quelli no, ho il classico normale della Midland. Ah, ecco, io per esempio con questa radio sto usando un Midland, però è come il CTE, capito? È diversa capsula, questo è il 4191 come capsula, capito? E questo c'è bene come il CTE, perché il CTE, attenzione, prima dicevano che usciva bene sulle radio modificate, ma adesso stanno usando tanti altri tipi di microfoni che vanno bene quanto il CTE, capito? No, ti volevo fare una domanda, ti hai provato se va bene un microfono amplificato lì? No, assolutamente no, anche perché al momento non ne ho. Sto usando questo 48 che è stato modificato a 120 canali e basta, è VAT forse. Gli ho abbinato una camera eco, mentre invece l'altro non gli ho voluto fare il volto, gli ho fatto solo 120 canali e basta. Scusate ragazzi, entro in scivolata, devo scappare. Un saluto a Claudio, Massimiliano, Tino e eventualmente che ci fosse in ascolto. Buona serata a tutti e buon proseguimento, grazie mille. Ciao Gianni Broffetta, ci sentiamo alle prossime. Allora, te lo regalo io un microfono della Midland, Mikey Multi, Midland originale, nero, senza essere mai cagato, addirittura con il lock, il down e l'up, quindi i fili sono 1, 2, 3, 4, 5 più la carta 6, tutti usi quelli, se non vuoi il down e up, usi quelli che vuoi, il microfono della Midland nero, verso la scatola ce l'hai, e ti dico anche quali sono: 1 audio giallo, 2 RX blu, 3 TX rosso, 4 down e up nero, 5 massa nero calza, 6, 12 volts bianco. Quindi vedi tu, fai te o camomilla? Ci facciamo una birretta e facciamo prima, fa culo la dieta. Ciao Gianni, scusa, salutiamo Jack. Ciao Gianni, ci sentiamo nel prossimo, dai. Buona serata. È vero, ciao Gianni, ciao. Quando vuoi siamo disponibili. Usaci tutto. E poi vieni tu a raccogliere. No, no, no, no. Non me ne serve. Buonasera a tutti. Buonasera. Va bene, dai. Però io sono un po' cazzo che vado via, sento uno, sento l'altro, poi va a finire che si fa le 10 e mi devo fare ancora la luce. Massimiliano, niente, mi ha fatto piacere ascoltarti. Adesso combatterò tu a Claudio. Claudio, noi ci mettiamo d'accordo, poi vediamo, dai. Niente, riprendete voi, ci sentiamo più tardi, se coincide vado a farmi la doccia perché non ne posso più. Sì, vai là, vai, vai, fai bene. Vabbè, puoi anche rimanere così, domani te la fai la doccia, tanto un giorno più, un giorno e meno, quasi tutto. Ciao, buona serata, buona continuazione, avanti qua. Ciao T, ti sto mandando la foto su Motozappa, ok, per farti vedere che dentro la scatola l'ho mai usato, l'avevo preso forse per il DAC, e non l'ho mai piazzato perché a voi non me la fottia più nulla. Lo sto rimettendo dentro la scatola, ci mettiamo d'accordo, non mi dire adesso perché non esco manco se mi paghi, domani magari quando stai rientrando dal lavoro ci sentiamo e te lo do, ok? Non ti preoccupare, cara, già sentiamo. Non è tanto per non lavarmi io, perché potrebbe anche andare, tanto non è che oggi ho faticato più. Quello che dirà la mia 50. Sì, vabbè, basta che basi dormire di fa, lui già fate se cosa, cosa giamba. Fidati. Non fa come ti faccio io, mica, Anna, quando ritrovo dal lavoro, con un fiato di me, sei nato, lavoro per le curatori. Le scarpe me le toglievo nelle scale. Entravo velocemente nel poggiolo, mi cambiavo nel poggiolo, mi portava almeno le ciabatte, roba pulita, poi entravo in doccia, quindi lo fai uscire, metti, allora viaggio era diverso, da ruggimento da mezza è diverso. Va bene, ciao, a più tardi se coincide, ciao, buona serata. No, non c'è cosa più brutta, cioè più bella che quando rientri a casa dopo una giornata di lavoro ti fai la doccia, mamma, io vedo certa gente che ti vuoi fare, oltre che non per la donna, sicuro che a fianco chiunque, ma per te stesso, capito, io già se non mi lavo sto male. Ma stai scherzando, Massimiliano? Assolutamente, assolutamente, ma io ancora oggi che sono talmente abituato a essere pulito, la notte prima di coricarmi, oppure la mattina presto appena mi alzo, è una cosa normalissima, però rimango un po' più diciamo più pulito rispetto a quando uno lavora tutto il giorno, capito? Però la doccia ci vuole sempre, senza contare l'estate che la fai anche due volte al giorno. Ma quei discorsi me li ricordo, mamma mia. Tu immaginati l'ultimo periodo che praticamente ci vivo gli otto spugli, no? Ero sempre in mezzo ai dombini. Beh, io non me ne sentivo, ero talmente abituato, non me ne sentivo addosso. Cazzo, da come aprivo la porta, stai fermo, non entrare, tieni, spuglia, nel pianerottolo. Chissà quante volte mi hanno viste mottande quelli vicino, dallo spioncino, cazzo. Una cosa allucinante. E io mica non sarei messo nulla, Aspetta, però è entrato qualcuno poco fa, mi sembra, ha salutato, avanti, chi era? Sì, buonasera, tranquilla a te. Ciao a tutti, dai, dentro dove ci sono, stavi sentendo una cosa di mezzo, avanti. Ciao Fra, buonasera, non ti stavo riconoscendomi, lo sai, che radio tutta bocca male che fai, vuoi la radio rauca o sei tu che stai male? No, non sto male, probabilmente la radio. Allora paghisso e va bene, anche lei ha preso l'avviata degli 80 anni, avanti qua. E vabbè, questa è quella che abbiamo provato l'altro giorno con il coso, come si dice, con il con l'M300 sicuramente. E vabbè, no, io non ti ho proprio sentito fare, forse hai parlato assieme a Tino e quindi non ti ho sentito. Ciao, buonasera, ben ascoltato. E intanto mi raccolgo, vabbè, asciughe. Ciao, le 8:10 sono. Un po', adesso mi preparo, stacco, ma sono già un'oretta più in radio, due chiacchiere già le stiamo facendo la sera. Niente, vabbè, dopo ti aggiorno di una cosa, Massimiliano, su WhatsApp, che mi ha fatto giurare lì. Va bene, dai, riprendi. Sì, positivo, positivo. Sì, va bene, va. E che radio è, si può sapere, Ofra, giusto per? È un Midland del 78, il modello è 78 574. Ma è di quelli in base? Ah, è bianco. Ah, ho capito, ho capito, bello. È bello anche esteticamente quello. Sì, è bellino, c'è la macchina vera e tutti i poveri cromati. E questo bene, mi ascolti, Massimiliano? Sì, anche questo ti ascolto bene. Si allontana molto dal K come radio? Ehi, non molto, no. Vabbè, questo è il mitico Elbex con il microfono mio, dai, con l'MB+5, quello che avevo preso da Gigi, potenza 8 watt. E per bella radio c'ha, Sì, l'abbiamo regolata, i toni sono a 1 e il microfono è a 5, vabbè, la batteria, vabbè, l'abbiamo messa nuova proprio stamattina perché la scarica. Va bene, va bene. Ottimo per la truppa. Vabbè, no, poi ti mando un messaggio su WhatsApp. Dicono che mi ha mandato un messaggio, una proposta di interni. Ah, ecco, ecco, va bene. Ascolta, non gliel'hai provato quell'Elbex, il carne? Sì, ma ci vuole l'adattatore, crea un sacco di problemi. Però funziona, bene, funziona bene lo stesso. Più o meno la radio è uguale a questa, non è che cambi molto. Dando il fatto che io ho gli acuti miei, quindi spingo sia l'MB+5 che il TAM, sono uguali come modulazione, però una rottura di palle perché c'ha l'adattatore, tutto lungo, tutto cazzo in grigio reggia, invece questo è attacco diretto, capito? L'attacco è uguale. Sì, ho capito, scusa Fra, un attimino per questo ping pong, ascoltami un secondo, ma quella radio c'ha la regolazione dei watt? Sì, c'ha la regolazione dei watt. Lo metto al massimo con senza lineare e quando attacco lineare lo metto a 5 watt, se no mi distorce la modulazione. No, voglio capire, adesso come seguono i watt? Tutti chiusi? No, sono praticamente a 5 watt, dai, 5 watt, 5 8 modulati. Bene, ecco, fai una cosa invece, chiudili quasi del tutto. Vabbè, 2 watt. Tutto chiuso? Sì, 2 watt. Perché il segnale non cambia niente? Lo so, 2 watt. 2 watt, perché se lo chiudi tutto, watt non ne ha niente, 0 watt. Se invece lo lasci a una tacchetta da 2 watt. Ecco, no, pensavo, perché a volte queste radio così, quando tu chiudi quasi tutti i watt, aumentano di modulazione, hai capito? E vabbè, c'ha dei picchi di modulazione belli, Va bene, avanti Fra. Chioppo. Massimiliano, è questa la radio come la senti? Vedi, cioè il microfono, la radio è sempre la stessa. No, ti sento benissimo. È leggermente bassina come radio, però è bella, chiara. Ti do radio 5, perfetta, non... a me lo sai che a me mi piacciono le radio un po' prepotenti, ecco. Ehi capo, dai, questo è l'MB+4, gli ho abbinato anche questo qua, gli ho abbinato, oltre l'M300 e il DM1000, esatto, il DM1000. No, anche questa va bene la radio, non lo... cioè stessa radio, ho cambiato microfono ma va bene uguale, ecco. Il microfono ce l'hai al massimo quello? Sì, qua ce l'ho al massimo adesso, ce l'ho a 10. Ma non è colpa tua, è colpa della radio che spinge poco, non ti preoccupare, però ti ripeto, già lo sa, a me piace la radio più spinta, ecco. La modulazione è chiarissima, ti ripeto, nessun problema. Quanta differenza c'è tra me e lui come microfono, Massimiliano? Un abisso. Qua già arriva bene, non è molto spinta, te l'ho già detto. Guarda lo smitter, Massimiliano, quindi sono a... Allora, l'ho riportato a 5 watt, adesso aggancio. Qua, adesso è agganciato, la modulazione cambia, rimane la stessa, la potenza è salita? Allora, la modulazione è cambiata totalmente, è molto più bella, è fatto da 9.15 a 9.30. Allora già funziona, ma infatti vedo che spinge, quando sollevo, do più potenza, spinge anche di più il microfono, vabbè. Che strano, va bene, dai. Allora, risganciamo. Anche la testa sta andando bene, Fra, no? Sì. Segnale non è che ce lo posso dare perché questo smitter no, è tutto sballato. Aspetta che ti faccio provare, te lo provo questo stesso microfono e l'altra radio, a vedere se cambia la musica. Sì, provalo, Fra, provalo. Cos'è che ti volevo dire? Chi è che te l'ha fatto... Chi è che te l'ha fatto mettere così i toni a uno? Perché l'hai messo così quel microfono? Perché sennò è troppo metallica per la modulazione. C'ha più acuti così, Massimiliano. Ok, no. Sennò prima come ce l'avevi? Ce l'avevo a 3, non mi biasi. Così è buona perché c'ho gli acuti e praticamente si assomiglia molto al 60, capito? Anche perché io spingo molto di petto, capito? Non posso spingere di altro perché non c'ho niente da spingere, però almeno di petto so spingere. Spingi di canna, Claudio. Aspetta, voglio sentire un attimino prima Franco, poi voglio sentire di nuovo a Claudio, ti faccio fare una prova. Avanti, ciao Marco comunque. Avanti Fra. Ehi Chiappa, dai, qua siamo sulla Presidente Lincoln. Una cagubba. Ehi Chiappa, vabbè, stai conoscendo anche con tutti i fatti, No, io ragazzi, adesso però devo portare il cane io. Dimmi Massimiliano, ciao Marco. No, allora, ti devo far provare un attimino una cosa. Quel microfono al posto di uno, portalo a 0. Al posto di uno, aspetta che me lo devo segnare, perché qua è bellissima così, Così a 0, così a 0. C'ha troppi acuti Massimiliano. No, così non va bene. E portalo a 2 invece che a 1. Così dovrebbe essere a 2, cazzo non lo vedo. Così dovrebbe essere a 2. Così è più bella la radio, cosa dici Fra? Sì, più bella. E voi me l'avete regolata, mi ti ricordi? Abbiamo regolata io tuettino. E così deve andare. A 0 non va bene. E il tono può rimanere tra l'uno e mezzo e il 2, così come adesso. E basta. E così va bene. A me non mi si caghi, io non vedo continuo regolando con la radio. Comunque va bene, lasciare così. Avanti Marco. Via. Buonasera a tutti, Claudio, ho fatto tutto, sceso, fatto, pigliato, il giornale del TV, sono già rientrato, dai, era solo per salutare. Qua Claudio, inutile fai prove, comunque vada, va sempre bene, fatta quella piccola, no, te l'ho detto, qua siamo troppo vicini, per quanto ti attenui, secondo me va in saturazione proprio lo stadio del ricevitore, ricordati che è un baracchino questo. Ehi, no, io lascio così, l'abbiamo lavorato Montino e Franco, Massimiliano, scusa. La posizione ideale è questa di questo baracchino. Infatti abbiamo detto dobbiamo tenerli a 5 perché altrimenti vediamo. Sì, 5 perfetti perché altrimenti va in distorce, cambia la modulazione, invece così di abbassarla l'aumenta, la tiene stabile, capito? Dai, io però vi saluto, sono già le 8 ragazzi, se volete continuare continuate, se ci siete rientro dopo, ma devo portare il cane perché è già un quarto d'ora qua seduto vicino a me che voglio uscire. Ok, grazie a tutti della compagnia, ci sentiamo dopo se ci siete, se no a domani, ok? Via, ciao Cla, mandami questi info a Motozappa poi, se va bene così, avanti Fra. Via, ciao Claudio, ci sentiamo, dai, alle prossime. Ciao a tutti, vai Marco! Ciao Claudio, ci sentiamo. Dai, detto ciò, devo fare roba qui per mamma, dai. Buona serata a tutti, buon proseguimento, dai. Io ero entrato presto, ufficio presto, devo fare commissioni. E ancora non è finita. E quindi dai, vai Franco, salutoni. Siete in due, siete rimasti in due, stasera c'era Gianni il profeta, poi non me ne ricordo altri. Dai, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, sentiamo alle prossime. Avanti Marco. Ciao Marco, dai, non ti preoccupare, anche in due si chiacchiera. Non è bisogno che bisogna essere per forza in dieci, no? Va bene, va bene. Sì, Fra. Ti volevo fare una domandina, ma stai usando come alimentatore uno stabilizzato o lo switching? Sì, però è, diciamo, è stabilizzato, dai, però lo switching, questo è di quello lì, ed è cap, come si chiama? SPS 8400, e qua 40 ampere, dai. No, non per quello, sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché c'hai una piccola alternatina sotto, leggera leggera, capito? Allora a me me lo fa lo stesso. Allora, io se secondo che radio uso, se uso lo switching mi fa questa piccola alternata, se uso lo stabilizzato questa alternata sparisce. Adesso non ho capito se dipende dalla radio o dall'alimentatore. Guarda, io non me l'avevo detto mai nessuno che sono l'alternata. Probabile che sia anche, siccome sto usando adesso, in questo momento, poco fa non lo stavo usando. Aspetta, voglio vedere una cosa. Guarda se ce l'ho ancora l'alternata. Se ce l'ho ancora. Vedi un po'? No, sparita. Ok. E adesso c'è l'alternata, così è. No, ancora non c'è. Cappa. Sarà probabilmente, non sai che cosa. C'ho il BV 131 che ci ho attaccato. Allora è lui, no? Allora è lui. Sì, perché una piccola alternatina io la sentivo, ecco perché te l'ho detto. Cappa, probabilmente è lui perché l'ho messo sulla radio, su quella radio bianca che stavo modulando poco fa. No, l'avevo messo, ce l'ho messo. E in effetti devo tutto rifare qua e per spostarmelo quello lì e metterlo tutto dall'altra parte. Ecco, vedi, in quest'ultimo passaggio ce l'hai di nuovo, per esempio. Capo, allora è lui, dai, è lui. Adesso dovrebbe essere sparito. Sì, sì, è lui, è lui, è lui. Sì, basta farti qualcosa, te lo metti o sotto o più lontano, capito? Capo, sì, ma infatti devo fare questo, infatti devo spostare anche... Gaffa, lo metto da solo, la faccio, e quindi tutte quelle radio me le fanno le metto sopra, e l'alimentatore con il 131 li metto insieme la volta fa. Ecco, tu c'hai un alimentatore, ti fa tutte le radio, così? Sì, ne sto usando solo uno, ne ho tre alimentatori, ne ho anche un altro da 30 e uno da 12, però ne sto usando uno perché tutte le radio mi porta tranquillamente. Ecco, ecco. E vabbè, anch'io ne uso. Vabbè, adesso c'è una cosa a volante, perché so con uno zingaro adesso. Prima c'avevo una bella stazioncina, tutto messo a posto. Adesso ho buttato giù il mobile, sto facendo dei lavori, quindi c'ho la radio fra sopra lo sgabello con l'alimentatore e il capo buttato così in terra. Ecco. Piano piano te la rifai. No, io sono tutto sulla mia, che avevo preso nell'80 per 80 e ce ne sta parecchio di roba, però si comincia a mettere a metro poi si mette tutto lì e sono anche presenti per la cultura, ho qua piccolina e tutti sono arrivati. No, io tutte le radio sono tutte dentro di cattura. Allora guarda, adesso ho una, due, tre, quattro scatole belle grandi e sono tutte piene di radio, capito? E alimentate. 25, uno da quanto è questo qua? Da 15 stabilizzato, uno da 10, uno da 300. Quello ci attacca anche la gabbia per la gabbia lì. Sì, ne ho uno da 300, fa 300 a 12 e 150 a 24. Buono, buono. Sì, va bene. Sì. No, io ho fatto tutti i miei non faccio niente. Abbiamo comprato questo, però non sono a tantere, perché l'altro non ci avevo una presa stabilizzato, era andato. La fanculo è andata e allora ho giudizio non svuotato, ci ho messo nella sua scatola, ho messo dai cinesi, da 3 ampere, e poi non funziona perfettamente. Sì, anche io ce l'ho uno di quelli dai cinese, da 30 ampere. Quello da 300 ampere è messo dentro un coso, mi fra, dentro un case di computer alla fine. Ce ne sono 6 da 50 ampere l'uno, capito? Sono messi tutti accoppiatemi, però sono tutti dentro un affarino di computer, un case di computer, quindi più riuscita dietro. Davanti abbiamo messo un interruttore di quelle della corrente di luce, là, a 3 pulsanti, e poi c'ho i due display dove mi escono sia il 12 che il 24. Tipo mi sembra che una 25 ampere, 30 ampere li assorba il B550, che mi sembra che faccia intorno ai 280, 300 watt in AM e intorno ai 500 in SSB. Infatti ho l'intenzione di prendere ti prendi direttamente con 100 euro, 150 euro, ti prendi un BC407, c'hai un linearetto dentro a 24, lo attacchi direttamente al suo trasformatore, lo attacchi alla corrente e sei pronto, non bisogna di accordare nel nulla, cioè 300 watt in AM e 600 in SSB, rubone givi, da una parte non sai che è un alimentatore, balle varie. Non so, ma è molto un 507 con il comprato. È una cabina. Non solo è una cabina, però è anche una cosa fatta carina, capito? Nel senso che tu devi accoppiare 2 alimentatori e da buttare con un palato lineare, non è che risparmi più di tanto, perché un B550 quanto lo vuoi pagare? 150-200 euro e altri 2 alimentatori li pagherai intorno alla cinquantina di euro, 2? Sì, 50 euro sì. Dai, Massimiliano, mi stanno chiamando la cena. Ce la riascoltiamo, dai, sono per tutti domani. Tutti domani. Anna me, ok, buona serata, buona carica batteria. Ciao. Ciao Massimiliano, è cambiato accento. Sentiamo.